David Parenzo in collegamento da Roma. Buonasera, applausi. Buonasera. Da Padova, ovviamente, Alberto Gottardo, eccoci qui, applausi anche lui. Arrivato nello studio di Radio Caffè con il mio autobus personale. Sul 7 barrato per la zona industriale di Padova c'ero solo io. Dunque è impossibile contagiarsi. Impossibile contagiarsi. Devo chiedere scusa a Gottardo. Perché? Devo chiedere scusa a Gottardo. Un taxi a 1,30 €. Dimmi perché? Perché devi chiedere? Devo chiedere scusa a Gottardo perché il primo giorno gli ho detto ho morto di fame e ho sbagliato, non è morto. Il secondo giorno ho esagerato ancora di più e ho detto che è un dilettante allo sbaraglio come la corrida di Corrado. Il terzo giorno gli ho detto che è Mr. Bean. Sì. Ecco, tutto questo non è vero. Lui in realtà è Benny Hill, il vecchietto porcellone che ogni tanto tocca il sedere a una domestica o un passante e deve dire la volgarità del momento. Quindi chiedo scusa se in tutti questi giorni l'ho via via insultato con epiteti non consoni. Sei veramente un coglione. Intanto, no, incredibilmente Vittorio Sgarbi chiede scusa agli italiani. Ripercorriamo. Cioè, che delusione. Sgarbi chiede scusa che e Gottardo delusione. No. Questo è incredibile. Gottardo non ha nulla di cui chiedere scusa. La gente, gli ospedali continuano a riempirsi. Lui dice una banale influenza, ripercorriamo la cavalcata sgarbiana. Vai! Che delusione. Comportatevi come prima, fate finta di nulla. È l'unico modo per sconfiggere queste teste di cazzo che vanno in giro col preservativo credendo o facendoci credere che ci sia il virus che non c'è. Detto questo, domani, prossimo bollettino. Saluti a tutti e Conte, vai a casa. Tu e Speranza. Siete senza speranza. Siete due matti da legare. Mettetevi un preservativo sulla testa. Eravamo al 2 marzo. E qua sentite ancora come combatte. Quella tossisce. Tutti voi sapete che anche quelli che stanno a Codogno che non c'è nessun pericolo di nessun tipo che debba cambiare la nostra vita, che andando in giro non ti capita un cazzo, eppure tu senti la televisione, l'emergenza, e qui bisogna attrezzarsi e sentiamo cosa dice il dottor Pregliasco. Che cazzo deve dire? Ma chi cazzo è Pregliasco? Mi deve rassicurare, ma chi cazzo è Burioni? Cioè, che cazzo l'ha fatto della loro vita? Come combatteva! A un certo punto comincia a parlare di virologo del buco del culo. Il virologo? Ma virologo di che cazzo? E cosa hanno scoperto? Quale virus del buco del culo? Cioè il virus del buco del culo. Io devo credere a quello che mi raccontano. Tutti fermi. Ma io vorrei dirvi, io giro ovunque. Le uniche zone che mi attraggono sono le zone rosse. Io vorrei andare a Vaux, vorrei andare a Codogno, vorrei andare a Bergamo, Lodi, dovunque. Posti bellissimi e comodi, chiese, santuari, persone che camminano. Poi a un certo punto incontri uno con la mascherina. Ma che cazzo di mascherina si mette? Che cazzo serve la mascherina? Ma che devono prendere per il culo? Com'era scatenato, ragazzi? Ma era appena una settimana fa, poco follia più di una pure. Settimana fa. Se follia. Siete a letto, alzatevi, andate a Codogno. Questa è la frase per cui è stato denunziato. Se siete a letto, alzatevi, andate in giro, andate a Codogno, andate a vedere, ecco. E così arriviamo alla giornata fatidica. Ieri sera da Paolo Del Debbio a un certo punto dice: chiedo scusa agli italiani. Senti. Comunque io mi scuso con gli italiani che mi hanno frainteso, ma sono stato ingannato e contagiato da virologi che hanno detto quello che io ho ripetuto. L'ho ripetuto perché non sono uno scienziato. La domanda è: sono scuse vere oppure no? Dice: ma no, ho citato dei virologi che effettivamente alcuni avevano. Ma vedi, Sgarbi, che è una persona seria, si scusa. Gottardo continua a blatterare, no, che lui va tranquillamente in giro, che va blattera. Sentiamo Ben Hill. Io non vado tranquillamente in giro, vado in giro per lavorare, come tutti quelli che, no, ma infatti, che non possono permettersi di rimanere a casa. Sono l'unico che a casa mia fa la spesa e poi più tardi ti darò dei dati di uno studio dell'Università di Padova che dovrà far riflettere tutti. I dati di Gottardo no. I dati di Gottardo no. Il centro studi Gottardo. I dati li dà la Protezione Civile. No, Gottardo. I dati li dà la Protezione Civile. No, il centro studi Gottardo, che fino a ieri diceva che era una banale influenza. Banale influenza. Banale influenza. Ma io non sono preoccupato per nulla. Non ricominciate a litigare. Intanto andiamo da Fanzaga. Intanto andiamo dal solito Fanzaga, ragazzi. Gli italiani intanto sono impazziti. Prima di andare da Fanzaga voglio dirvi che beh, certo. No, ma che ci sono delle cose meravigliose. Delle cose meravigliose. Innanzitutto 12 persone a fare un picnic in campagna sono stati denunciati. 12 persone a Varcaturo, vicino Giuliano. Nonostante le norme governative anticontagio, avevano organizzato un picnic all'aperto in un parco di Via Madonna del Pantano a Varcaturo. Ma ci sono altre cose clamorose. Quello che a Messina è andato praticamente per scappare dalla moglie si è finto clochard ed è scappato in giro per l'Italia per non stare a casa, ragazzi. Numero uno assoluto, un eroe totale. Però Fanzaga sostiene che il coronavirus durerà in base alle preghiere. Io dico, ragazzi, mi fa impazzire questa cosa qua. In base alle preghiere, roba da matto. Come ci ha detto la Madonna, no? Ho portato l'esempio della guerra di Bosnia. Quando cominciò la guerra di Bosnia, la Madonna disse: quanto durerà questa guerra? No, non ho detto molto Madonna. Dipenderà dalle vostre preghiere, ma voi pregate poco, ha detto. Quindi io sono convintissimo che quanto durerà questa via crucis che stiamo percorrendo, perché è una via crucis, per molte anche una via crucis dolorosissima, Dipenderà anche dalle nostre preghiere, anzi molto dalle nostre preghiere. Ma non dipenderà molto dalle preghiere, caro Fanzaga. Puoi anche crederci, puoi anche essere convinto. Ma la guerra in Bosnia non è finita, quella che tu citi, non è finita per le preghiere della Madonna. È finita perché a un certo punto si sono messi d'accordo, non hanno più sparato, c'è stato un accordo. Che cazzo ne so, porca puttana. Non bisognava combattere Milosevic, no, bisognava pregare. Ma incredibile, dai. La Madonna può aiutare a trovare il vaccino, questo è eccezionale. La Madonna no, non può aiutare. Con ma tutto il bene. Sì, ma capito, Davide, è come se uno sarebbe dicesse. Sarebbe un vaccino della Madonna, ma no, però. Sì, sarebbe un vaccino della Madonna, dici. Effettivamente. Però no, voglio dire, ma tu non è ma che io, dici. Come sai, sono di un'altra azienda. Sì, ho capito, quindi, ma non è che ci sarà qua, quindi non mi stai chiedendo un'altra cosa. Parenzo, prega, perché dipende anche da te. Sì, ma magari io prego, però prego anche gli scienziati di ma no, è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso. Sei anche della razza eletta, magari ti ascolta di più. Non esiste razza eletta, ma vedi, chi dici stronzate? Popolo eletto, razza eletta. Sei sgrammaticato in tutto, sgrammaticato in tutto. Intanto stacca. Ebbene, cari amici, chissà che la Madonna non dia una mano agli scienziati a trovare il vaccino. Lo potrebbe fare, certo che lo potrebbe fare, lo farà, dipende se noi saremo insistenti nella preghiera. E le offerte? A questo punto diamo le offerte. È incredibile. E se invece fosse una purificazione invece del castigo? Ma ragazzi, ma questo qua è matto serio. Cioè, è matto vero. Ma senti sta roba. Sì. Domanda, ci si chiede se questo virus sia un castigo o no. Se cambiamo la parola e cambiamo purificazione e castigo, che è il suo vero significato, cioè castigo deriva la parola casto, cioè è una cosa sporca e Dio con un intervento la vuole rendere pulita, casta. Quindi questo sarebbe il significato di castigo vero, il vero significato, che è purificazione. Se noi chiamassimo il castigo purificazione, assumerebbe un senso diverso. Coronavirus è un richiamo di Dio, ragazzi, ma io però. cioè questo qua è hai radio, capito Cruciani, cioè, ma è hai capito cosa succede a invitare le mistress, i trans ad andare a trans, che poi arriva il coronavirus, se tu fossi stato casto non sarebbe successo tutto questo, è colpa di questa trasmissione, se a Milano sarà una coincidenza che proprio a Milano ci sono un sacco di casi, da dov'è che si propaga la zanzara? Da dove si propaga la zanzara? Da Milano, messa, da e quindi io lo direi a Don Fanzaga di indagare la condotta morale di Giuseppe Cruciani. In questo senso certamente anche il coronavirus è un richiamo di Dio. Io l'ho chiamato ammonimento, poi l'ho corretto con la parola richiamo che mi sembrava più adeguata. Non è un ammonimento di Dio, un richiamo di Dio. No! No! No! No! Ho capito che è il momento sbagliato. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Eccolo! Però la cosa più scandalosa è che in questi giorni Radio 24 non danno ancora al traffico, cioè ma che cazzo gliene frega la gente del traffico in questo momento? Cioè già di normale sto pure bene. Non frega un cazzo a nessuno. In più adesso che c'è l'olocausto nucleare in corso, cazzo, mi interrompono la zanzara, quella sì che è importante, per mandare il traffico, cioè ma dai. Ma che è? Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Questo no, ragazzi, no. Questo ma però no, c'ha ragione. Ma scusa, ma no, per andare in Austria, i controlli alle frontiere, ma non le c'è cose, nessuno per strada. I flussi di merci non ti che si passare. Spostano, dai, ma non c'è passare. Nessuno. Che cazzo di informazioni sono? Perché volete combattere una battaglia ma contro hanno quelli chiuso che fanno tutto? Chiudessero anche le informazioni del traffico. Cosa cazzo vai a fare in Austria? Appunto, tra l'altro, comunque, ragazzi, il numero uno è ancora una volta il sindaco di Lucera, provincia di Foggia, si chiama Tutolo ed è incazzato con i suoi concittadini che giustamente lui che fanno delle follie, si riuniscono di nascosto nei garage per giocare a carte, almeno lì provincia di Foggia, vanno a fare la spesa 4-5 volte in più persone, e quello che dico io, l'ho detto anche ieri sera, ci vogliono i militari, l'esercito, il controllo del territorio, l'ho palazzo detto per anche palazzo. Ieri certo, sera. Ormai certo. Si autocita. Quello sempre. Come disse Cruciani. Ma certo, quello c'è una citazione. In un'altra trasmissione. Ma io ieri guardavo il povero Pregliasco che era costretto a confrontarsi lì con voi, no, in quello studio lì, poveretto. Ma che? Costretto lì. Ma quando costretto mai? Lì dico ma chi ci mancava? Solo il Divino Telma, guarda, ma poverino. Che cazzo dici? Eravamo io, del Debbio, Pregliasco, un sacco di gente collegata, gente normalissima, gente. Ma non dire cazzate. Guarda, questo qui c'era uno che urlava esercito, mia moglie che diceva ma forse non c'è neanche tutti i torti. Ma certo, ho scoperto che eri tu. Ma certo, io sentivo la voce da lontano, e diceva ma forse c'ha ragione che l'esercito, dico ma l'esercito, vuoi mettere quei programmi rigorosi tipo In Onda con Parenzo e Tenese? No, posso dire, sono programmi rigorosi. Ma posso dirti una cosa, ragazzi? No, ma la cosa incredibile è questa, che Parenzo poi è assolutamente contraddittorio, perché da una parte dice restate a casa, poi dice vabbè affidiamo la cosa alla volontà delle persone, che ovviamente fanno il cazzo che vogliono, ho detto che le leggi ci sono, ma ci vuole anche l'aiuto del cittadino per farle rispettare, senti il sindaco oltre di Lucera, che alla sanzione, ragazzi, ovviamente. Militari, e tu non puoi uscire da casa più di una volta al giorno per fare la spesa, per andare. C'è gente che va a fare, che va in edicola 5 volte. Perché giustamente se tu dici che puoi andare all'edicola, basta dire sto andando all'edicola, no, che cazzo. Io sono andato stamattina in edicola a comprare tutti i giornali. Sbagliato, la guardali online. Quelli che si rinchiudono nei garage, che mi segnalano, ok? Non sono quelli più furbi, intelligenti, che si mettono a giocare o carto in do garage. Poi i carti io devo abbassare i pignatil. E chiaro, e alla mazza di carte in genere, un padratello di carte, una carta. Quando andate là, non è che dice, tengo tre, tengo, no, è finita. La piccola traduzione da quello che ho capito dal pugliese, dal lucerano, no, dal lucerino, è questa: è praticamente quando siete là al cimitero, poi al cimitero, alla, al Padre Eterno, davanti al Padre Eterno, non so dove, non è che sottoterra, non è che potete giocare il 3 a 3-7 come giocano lì a Lucera, perché se evidentemente ci sono degli anziani o credo persone comunque che si riuniscono nei garage per giocare a carte. Senti sta cosa della gente che va a fare spesa più di una volta. Spesa una volta, non è che mi accattiamo la cedil, ma affronno potrò su. Ma la patena è sfusa perché lei mette un doppio brodo per fare un brodo vegetale. Oh! Comunque ragazzi, dirò una cosa un po' populista adesso, ovviamente. Però è questa. Perché perché non azzeriamo, non diminuiamo del 50% lo stipendio dei politici, per esempio? Bellissimo. Per quale motivo? Beh, sarebbe da azzerare innanzitutto perché non fanno un cazzo in questo periodo. Stanno lavorando. Non si capisce invece perché il Parlamento non è aperto. Cioè, le fabbriche sono aperte e il Parlamento chiuso. Ma che cazzo è questa storia? Per cautela, le fabbriche sono aperte. Ma poi i decreti dovranno essere convertiti. Tornino in Parlamento. Tornino in Parlamento. Tornino in Parlamento. Ma bisogna evitare il contagio. Con le distanze di sicurezza. Tornino in Parlamento. Il voto a domicilio. Tornino in Parlamento. Gli operai in fabbrica. Gli operai in Parlamento. Il voto a domicilio. Ma dai. A parte che se va in Parlamento, se non ci sono misure di sicurezza adeguate, senti, come fai a fare esercitare il diritto di voto? Riapre il Parlamento, sono aperte le fabbriche, riapre il Parlamento. Ma il Parlamento è aperto, il Parlamento aperto, è aperto. È chiuso. Tornassero in Parlamento senza rompere i coglioni, dai. Ma che chiuso? Senti, azzerare lo stipendio dei politici, Malvezzi, Malvezzi, ex leghista un tempo, economista. Visto che voi politici, voi ministri, voi parlamentari siete così sensibili e così vicini al dramma della povera gente, azzerate, invece di fare queste manovre di elemosina, azzerate gli stipendi dei parlamentari e dei ministri. Sono certo che questo richiamo alla sensibilità vi troverà tutti i parlamentari italiani assolutamente favorevoli a questa proposta. E intanto il nostro amico ciclista Brazzo, il ciclista che praticamente non appartiene più allo Stato italiano, praticamente un soggetto di diritto internazionale, fermato dalla polizia, dai vigili urbani, dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, ha denunciato gli agenti che hanno abusato del loro potere. Non riconosce il decreto di governo e vuole girare come cazzo vuole. Salute a voi, esseri umani. Desidero comunicarvi che a seguito dell'increscioso fatto successo il 13 marzo 2020, durante il quale sono stati calpestati tutti i miei diritti sanciti dalla legge, oggi, lunedì 16 marzo, ho sporto regolare denuncia presso la Guardia di Finanza di Rovereto nei confronti degli agenti che hanno abusato del loro potere e che mi hanno sequestrato. Il sequestro di Brazzo, cosa pazzesca, ragazzi. Carlo da Roma, vai, avanti tutta, ragazzi, vai, cominciamo. Sì, buonasera. Dimmi, Carlo, una domanda. Gino Strada, dove Gino, cosa fa? Ah, tu aiutare? Dici perché non si è palesato con un ospedale, con un'iniziativa, esatto, dici esatto, perché esatto, non ha esatto, contribuito? Esatto. Non lo possiamo sapere. Mi risulta Parenzo che Emerge sì, lo sta facendo. Mi risulta che Emerge si sta dando ONG il suo contributo. Sì. Stanno dando una mano tutte. Sì. Di medici. Perché lo dici? Informi meglio. Perché lo dici, informatevi, Carlo? Meglio. Informatevi meglio. Ma perché, Carlo, faccio questa domanda? Perché io penso che lui dovrebbe aiutare, no? Siccome nessuno le parla. Sì, anche lei, Carlo. Anche lei, Carlo. Carlo, lei ha donato il sangue questo mese, per esempio. Vabbè, come ho fatto non io. È obbligatorio. No, così. Uno può. Anche lei, Carlo, può farlo. Io doni 50 farlo euro. La settimana prossima, no, bravo. Benissimo. Esatto. Io l'ho fatto. Io l'ho fatto questo mese. E lo perché faccio anche il mese prossimo. Ognuno cioè, di noi può farlo. Fatto. Adesso ci sono delle misure in più da prendere. Perché anch'io. Vabbè, Carlo, che cazzo fai? Non ho capito. Cosa ha fatto lei, Carlo? Lei, Carlo, cosa ha fatto? Di concreto, cosa ha fatto? Allora, fallo rispondere, ho rispettato le regole. Poi per quanto riguarda il sangue, io non posso donarlo, ma poi scusa, non ho capito, ragazzi, ma doni 50 ma euro, non può, doni 50 euro, ma non può fare una critica, ma non può fare una critica a quelli che normalmente sono sì, in prima linea, ma a dire, prima fa di domandare cosa ha fatto Gino Strada deve dire cosa ha fatto lui, ma, perché sennò non ma funziona, ma semplicemente segue se le regole, segue le regole e basta, che cazzo deve fare, scusa, ma che dici? Allora che Gino Strada può seguire le regole. Adelchi da Brescia, buonasera, io volevo chiedere una cosa che non mi è molto chiara. Ci cosa? Stanno parlando di 2500 morti ad oggi, giusto? Vabbè, allora Niente, il sito dell'Istituto Superiore della Sanità dice che sono due i morti diretti per coronavirus. Sì, fino a qualche giorno, fino a qualche giorno fa era così. Allora, Delchi, dimmi. Ecco, no, ancora ad oggi. Quindi è chiaro che se mi conti tra i morti anche quello che era già in fin di vita, poi scoprono che c'aveva il virus, se io domani vado sotto un treno e scoprono che era un virus, che cosa vuoi dire? Non ho capito, Adelchi, cosa vuoi dire? L'oncologico di 94 anni, dimmi Adelchi, fermo restando che bisogna tenere alta la guardia, però direi che stanno creando un po' di allarmismo, forse c'entra qualcosa, c'entra, ragazzi, il coronabond. Il coronabond cos'è? Sì, non so se lo sai cos'è, ma sì, il coronabond, ecco. Ripetilo tu per favore, il coronabond. Bond sono dei titoli emessi nel 2017 da alcune banche mondiali. Dai, praticamente erano una scommessa su che hanno fottuto tutte le borse per guadagnare quanto? Per guadagnare quanto il hanno corona fottuto bond. Tutte le borse fermi a, tutti. A colpi del 20% fermi in meno. Tutti, fermi corona bond, la causa del coronavirus. One Express, il pallet express. One. Vi presenta la zanzara. Oh no, la mucchina è finita! Ci penso io, va? Ecco la mucchina! Già la usavo, ma adesso di più! È perché tutto questo allarmismo che stanno dando. E la gente... si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. La gente... Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo. Adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Io mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Perenze. Non si può camminare per strada senza ragione motivata. Si facci venire un'idea. Facciamoci venire un'idea valida piuttosto. Sì. Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Oh, Madonna benedetta! Che c'è? Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Ecco, chi lascia passare? Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lascia passare. Bravo! Bene, benvenuti così. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. You have a sickness. Croce Lenzo. We are the disease that brings you to your knees. Cosa? Coronavirus, confessioni di un marito felice. Mia moglie non vuole andare più in vacanza, e via. Non vuole andare più al centro commerciale tutte le domeniche, e via. Non fa più acquisti su internet perché viene tutta la Cina, e vai. Sta tutto il giorno con la mascherina davanti alla bocca e non si sente neanche a rompicoglioni. Ma ragazzi, ma meglio di questo, ma che c'è? Che c'è? Ragazzi, buongiorno. Tenete duro ancora fino a giorno 3, che ci toglieremo tutte queste mascherine. Ma voi non mi mettete la passamondani che è finita la sotto, mi c'è fa la rapi. No, è quello il lato peggiore di questo reclutamento in casa. Niente più sesso. Cioè, ma fa? Solo a Trimoni stiamo andando avanti. Trimoni, you porn, you girls. Che è il girls? Già zem, dai, facciamo tremor. Poi passano pigme, mo mi fa scanare tremor. Che devo fare? Che dobbiamo fare? I Trimoni sarebbero le seghe, amici miei. Le seghe. D'altra parte c'è la genialità. Dove arriva la genialità? A Barletta. C'è anche un signore che a un certo punto ha proiettato un porno nel condominio. Senti, Gio, c'è un condominio con un cortile interno e uno si è messo a proiettare un film porno dalla finestra. Straordinario. È stato accusato, è una porcheria, l'ingegno italico. Secondo te come fanno? È passata praticamente un'ora da quando questa trasmissione è iniziata e il sovranista populista Cruciani non ha parlato di un altro fatto del giorno, ma l'hai sottaciuto per volontà, ormai ti conosciamo. Rispettare le regole, tutti devono rispettare le regole, e uno dei leader dell'opposizione passeggia mano nella mano senza mascherina, senza nulla. Abbiamo 24 ore sono passate. Lui sono ha detto passate che è andato a fare la spesa e non hai parlato di questo fatto, lo hai nascosto. Però, hai preferito dare voce a quei quattro scalzacani di matti che chiamano e non hai detto nulla. Scusami, sulla passeggiata del ministro dell'interno. Io sono contrario alle passeggiate a cazzo di cane. Lui dice che è andato a fare la spesa. Come cazzo fai a provare il contrario? Mano nella mano con la moglie. Vabbè. Ma scusami Parenzo, ma a tutto concedere, lungi da me da difendere Salvini, ma quello che gli ha fatto la foto cosa cazzo stava facendo? E tra l'altro era un giornalista del Messaggero. Era un giornalista del Messaggero. Lo dici tu. Ma quale giornalista del Messaggero? E intanto lo dici tu. Il Messaggero ha pubblicato la notizia perché era in via del Corso. L'ha pubblicata, caro mio. E quello che era di fianco a Salvini, cosa cazzo stava facendo? Ragazzi, la realtà è questa: c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente in giro. Io non so perché Salvini abbia fatto questa compreso cosa. Compreso l'ex ministro dell'interno. Se l'ha fatto per fare una passeggiata, ha fatto una minchiata. Gliel'avete chiesto ieri. Ma ha detto lui non posso ieri. Andare era ospite ieri. Dov'era? Ma no, ma non perché lo so dove era. Solo quelli del PD possono andare in giro. Ma chi è del PD che va in giro? Ma che vuol dire? Ma che risposta per rispondere alle accuse. Devi dire al tuo amico Salvini. Che ma io, devi ma dirglielo perché vi sentite. Il tuo amico. Devi suggerirgli che non va bene così. Non è serio. Non è un messaggio serio. Non ha mica violato allora, la legge. Lui comunque, ha detto che è andato non a fare questo, la spesa. Infatti, non è questo siccome di violare in questo la legge. Cazzo di regole che hanno fatto, basta dire io vado a fare esempio. La spesa. Vado a fare la spesa perché tu puoi andare tranquillamente a fare la spesa. Allora, che cazzo volete? Comunque non mi stupisce che neanche anche Benny Hill lo difende lì, anche Benny Hill di Padova lo difende. Ma non è che certo, ma perché? Guarda, è una Benny quarantena Hill. All'italiana. E allora se è all'italiana ognuno fa quel cazzo Hill. Che vuole. Ma sì, non è mica ma una roba dai, cinese. Tu. Alessandro mica da Padova, seria dai, che Alessandro stiamo facendo. Da Padova, vai Alessandro. È serissima, basta che Jacopo i cittadini da lo siano Jacopo da Milano. La quota idiotici è ciao sempre. A tutti, buonasera. Esercito per le strade, Jacopo da Milano. A Parigi hanno smosso i carri armati, ho visto le camionette, perché non lo facciamo pure noi? Jacopo, dai. Jacopo, dimmi. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Ari, dai, dimmi, volevo, dai, forza. Intervengo semplicemente per dire al buon Gottardo che sono contento di stare un po' cambiando la sua opinione. No, non sto cambiando un cazzo. Jacopo, cerca di parlare meglio. Non so da dove parli, da come sei collegato, però ma no, certo, ti sentiamo che ha detto poco. Una fesseria per settimane, adesso si è reso conto dai, che Jacopo, ma no, dimmi, assolutamente. Ah, sì, i dati mi stanno dando ragione. Io ho un padre che è stato che è positivo al coronavirus, la sua compagna è positiva e la madre della sua compagna in questo momento è intubata in niente, richiamiamolo, dai, Giovanni da Messina, dai, Giovanni, dimmi. Però era chiaro quello che ha detto. Sì, ci sono. Dimmi Giovanni, dimmi. Cruciani, il tuo amico Parra com'è che sta? Non lo so, credo bene, da quello che sento meglio. Bene. La mattina fa la rassegna stampa, tutto bene. Combatte perché? Come un leone. Qual è il problema? La possibilità che ci resti secco non c'è per lui. Ma perché dovrebbe rimanerci secco? Scusa. Per fortuna no. Perché dovrebbe rimanerci secco? Cioè tu speri che ci rimanga secco? No, io ho detto c'è la possibilità, non ho detto spero. No, ma non fare lo stupido, non mi pigliare per il culo, andiamo al sodo. Tu speri che ci resti secco? Dica che fate voi, tanto la seguo quella di Porro, com'era? Zuppa di porro. Sì, allora non ho capito. Sì, dimmelo sinceramente, tu speri che ci resti secco, cioè non saresti così scontento? Ti lancio una provocazione, vediamo tu che sei politicamente scorretto. Ma cosa c'entra politicamente scorretto? Non è che mi auguro la morte della gente, che cazzo dici? Allora, 2-3 mesi fa, in una delle sue rubriche, Porro ha detto che la terra dei fuochi è una fake news. Non lo so, se l'ha detto, dipende che cosa ha detto 2-3 mesi fa. Magari la retorica della terra dei fuochi, magari parlava di quello. Non credo che la retorica. Ma non lo so di che cosa parlava, non lo so. E te lo dico io di cosa parlava del fatto che siccome la terra dei fuochi una di quelle che l'ha svelata è il generale Costa, che è dei 5 Stelle, lui che Giovanni, Giovanni non lo so, che, non lo so, non me ne frega un cazzo. Allora non ho capito che cosa c'entra questo. Ma, ti auguri la morte di Porro o no? Ti auguri la morte di Porro? Ci speri, speri che ci resti secco? Se lui può essere strapotente con quelli della Terra dei Fuochi che sono malati e morti per tumore, io non posso essere strapotente con lui. E fallo allora, allora dillo chiaramente, siccome fai il codardo e manco lo dici, allora dillo. Mettimi in collegamento con lui, mettimi in collegamento con lui. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra adesso? Cosa la rubrica c'entra? Mettimi in collegamento con un cretino. Il cretino di oggi potrebbe essere Giovanni. Potrebbe essere un nuovo format. Scusami, Giovanni, non ho capito. Meno male che sei tu che sei scienziato. Non ho capito. Tu vorresti parlare con Porro per che cosa? Non ho capito. Perché vorresti parlare con Porro? Ma io ho lanciato una provocazione. Lui può essere strapotente nei confronti di quelli che sono morti. Ma infatti, non può essere strapotente con lui. Sì, ma in che modo? Che cosa gli vuoi dire? Che speri che ci rimanga secco? Questo non è strapotenza. Che cazzo è strapotenza questa qua? Se lui ci restava secco non è che c'era così tanto da disperarsi. Lui può essere tu vedi cosa succede? Vedi cosa Giovanni. Succede Giovanni a rimanere dentro casa? Che non ti funziona più il cervello. Però a un certo punto inizia a dire puttanate. È giusto sono fuori qua che cammino per i cazzi miei e nessuno mi dice niente. Perché sei fuori? Aspetta. Perché sei fuori? Che avverto subito il sindaco di Messina, che è uno tosto da questo punto di vista, Giovanni. Perché sei fuori? Perché io sto in periferia e qua non passa nessuno, non c'è né carabinieri Devi uscire il virus. In periferia non passa neanche il virus, allora no, per incredibile, lo stesso guarda, è incredibile. Questo sta a fare i cazzi suoi la fuori da casa. La irresponsabilità della Giovanni, gente. Perché poi sei dice, fuori? Colpa del governo, ma quale governo? La gente è irresponsabile. Sì, vabbè, dove sto io qui non ci sta anima viva, siamo nella piena campagna, quindi non ma c'è problema. Ma pensa che questo abbiamo speso dei soldi pubblici per farlo studiare anche. Aspetta, il fallimento aspetta, di sta Giovanni, cosa. A parte che io ci ho scritto Giovanni da Messina, dunque tu sei in città praticamente, dunque non è vero che sei fuori, sei in città. Adesso Messina provincia. Messina provincia, sì, ma che stai in un paese, comunque c'è gente, non è che stai in piena campagna da solo, isolato, no. Perché... Sì, vabbè, comunque siamo nella zona periferica. Più ma non c'è nessuno, perché la gente resta a casa. Se tutti quanti la pensassero come te, vado a farmi una passeggiata, sarebbe la fine, perché tutti quanti si incontrerebbero. Ma mi pare abbastanza evidente. Ammesso che sia, ammesso che serva. Hai sentito dov'è che sono? Dov'è che sei? Dentro la macchina, nessuno mi può contagiare. Ma perché sei fuori? La mia domanda è questa. Hai una necessità di uscire? Perché sei fuori? Ma non ce l'hai una famiglia, una moglie? Per quello è fuori. Giovanni? Oh, vabbè, niente. Jacopo, richiamatemi questo stronzo. Jacopo da Milano, dai, Jacopo. Jacopo. Spero mi sentiate. Stavo dicendo... Mi senti? Poco, dimmi. Ecco, stavo dicendo, io ho mio padre che è stato trovato positivo a Covid-19. Pure la sua Quanti compagna... anni ha tuo padre? Quanti anni 70. Ha tuo padre? 70 in questo momento, poi? Sì. Poi? La sua compagna pure, e sono tutti e due a casa, perché in ospedale... Vabbè, vuol dire che non sono gravi, l'affidamento fiduciario. La madre della mia compagna, la madre della compagna di mio padre, invece è in ospedale, in coma, in questo momento. In coma, addirittura. Purtroppo. Sì. Quanti anni ha la madre della compagna di tuo padre? Ma cosa c'entra? La madre ne ha circa 80, ma non è questo il problema, quello che io fammi sentire, Jacopo. Siamo nel pieno della statistica. Quello che io vorrei far notare a Gottardo, che in questo momento magari sarebbe meglio fermare un po' le polemiche, far capire, passare, soprattutto perché ha un leggero peso come il suo a livello mediatico, far notare alle persone che è molto importante, che è molto importante stare attenti in questo momento, stare attenti, basta semplicemente questo. Vabbè, questo poi grazie a cazzo, tempo, Jacopo, questo qua lo diciamo ogni giorno, dai, su. Non tutti lo diciamo ogni giorno, ma sì, però non è che le opinioni, si possono bloccare semplicemente perché uno deve stare attento, dai, su. Io non dico che non si debbano bloccare, sono contrario a tantissime cose che sono state fatte fino ad oggi. Perché secondo me sono cazzate, magari posso anche essere allineato su qualcosa di quello che dice Gottardo, ma non è questo problema. In questo momento però è importante che la gente capisca che non è una cosa questo, così ma lo semplice. Ma infatti lo sappiamo. Non cioè, lo ma infatti sì, no, infatti, ma la gente sì. Non lo sa. Jacopo. Parenzo lo sa e Gottardo Jacopo. Lo sa perché non è stupido. Allora, va bene Jacopo, ho capito. Luca da Perugia, non si sente niente. Luca da Perugia, dai Luca. Destino! Dimmi Luca, dimmi. Allora, io se fossi in te farei una cosa. Ah, grande Luca, aspetta Luca, io non so che cosa succede oggi con le linee, non so cosa succede con le telefonate, ma non si sente praticamente nulla. Luca, ti richiamo. Io sono senza viva voce. Sì, ma ti richiamo, non ti preoccupare, ti richiamo. Va bene. La zanzara. Ho bisogno di sorca. C'ho bisogno di sorca io, capito? Grazie Sharon. Andiamo avanti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Thank you. Da quando è iniziata sta storia, Beppe, vado al lavoro perché devo lavorare, rischiare la mia pelle, ma non ho mai visto una pattuglia che mi ha fermato, anche qui, provincia di Torino, andata, ritorno, nessuno che controlla, gente per strada, ci va l'esercito, Parenzo, hai capito? Ci va l'esercito. Allora, molte persone mi stanno scrivendo, si stanno lamentando con Conte, vogliono sapere esattamente delle categorie che Conte non ha citato, cioè spacciatori, ladri, parcheggiatori abusivi, cioè Conte non ci ha spiegato a chi si che cazzo hanno fatto, voi sapete qualcosa in modo che io posso dare informazione a queste persone, per esempio chi aveva le piazze di spaccio di droga lo deve fare a casa o deve lasciare, per esempio i ladri di appartamento se stanno a casa come cazzo fanno a rubare gli altri appartamenti, e poi per esempio gli scippatori a che ora, per esempio gli orari che loro possono lavorare quali sono, cioè Conte non l'ha spiegato, se qualcuno di voi sa qualcosa me lo dice in modo che io li informo, grazie a tutti per la collaborazione. Effettivamente ragazzi, si notano diverse cose, per esempio gli spacciatori, cioè si possono, che cosa stanno facendo in questo periodo? C'è la gente che cerca droga, lo sapete che tra le migliaia di denunciati per la questione del decreto, per aver violato le norme del decreto, c'è gente che ha risposto ai carabinieri, ragazzi io sono uscito a cercare la droga perché mi devo drogare. Come cazzo si fa con questi qua? Cioè, io non sulla, è semplice sulle, come cosa. Sulle . Piazze di spaccio di Padova vedo sia gli spacciatori che i tossicodipendenti con la mascherina. Moltissimi. Addirittura. In stazione a Padova sono rimasti solo i tossicodipendenti, no, però entrambi con la mascherina. Sì, divertente. No, ma è vero, ma ragazzi, ma è così, ma questi se ne sbattono. No, ma ridevo perché è una notazione divertente. C'è un ascoltatore che prima mi diceva a Torino, per esempio, poi magari mandiamo in onda il WhatsApp. Si vedono negli autobus, siccome non c'è controllo, non è che la gente ti controlla sull'autobus, sì. Si incontrano sull'autobus. Senti questo. Lucio, sono Angelo, provincia di Torino, conducente di autobus. C'è troppa gente in giro ancora, troppa, sì, con ste cazzo di bici da corsa, gente che corre, ma che cazzo, ma non lo vogliono capire. Non ci va l'esercito armato, ci vanno i celerini da stadio con i manganelli da prendere a manganellate. E poi sui mezzi pubblici qualche controllo in più, perché oramai hanno trovato l'escamotage, spacciatori, tossici, non potendo andare in giro in macchina per i posti di blocco, vanno sui mezzi pubblici, nessuno li controlla e il gioco è fatto. Ciao, buona serata. Intanto positivo un secondo calciatore della Juventus, che è Matuidi, che è asintomatico. Io però voglio dire una cosa, ragazzi, è troppo facile così, perché la gente normale il tampone non lo può fare, perché è vero che quelli della Juventus erano in isolamento perché era stato trovato positivo un calciatore, appunto, è vero che cioè i calciatori c'è un motivo se gliel'hanno fatto. Sì, però oggettivamente se un calciatore, ma anche se lo chiedo io, ce lo chiedo io, se lo chiedi tu, se lo chiede Gottardo di fare un tampone, ce lo fanno. A Feltri gliel'hanno fatto, cioè, a Feltri fatto. Non è che stava morendo, non è andato forse là. Perché comunque lui lavora avendo una certa età, io sono meno male che gliel'hanno fatto, no, lo dico, ma senza io dico ironia, no, cioè, però avendo è vero. Una certa età e dirigendo un giornale, per quanto ridicolo, ma quindi comunque fa una sorta di servizio pubblico, no, sto dicendo dirigendo un giornale, per quanto ridicolo, è pur sempre un giornale, e quindi non è che il direttore del giornale abbia uno status particolare rispetto no, a qualcun altro, quello per carità, ma come un medico però magari è una di quelle categorie che oggi assieme a chi va in fabbrica è più a contatto con altre persone. La cosa è molto semplice, le persone normali se tu stai male il tampone di norma non te lo fanno oggi, perché devi arrivare proprio a pronto soccorso, non dico moribondo, ma insomma sì, in una situazione particolare. Esatto, è così. Invece, se ti chiami Giuseppe Cruciani, o ti chiami Gottardo, o ti chiami Parenzo, o hai un minimo di conoscenza, eccetera, ti fanno il tampone. Questa è la realtà dei fatti. Cioè, a prescindere da Matuidi, come sul Titanic, quelli della prima classe si sono salvati di più di quelli vabbè, della terza, magari purtroppo Luca da non Perugia, è neanche vai. All'italiana ma è, così, essere, è così durante le emergenze purtroppo, ma e non è giusto, ma questo e non è giusto. Luca, allora Giuseppe, Dimmi, dimmi. Mi Luca. Senti? Ti sento, dimmi, dimmi. Allora, a me mi fa ridere una cosa, che tutti non avevano capito che tutto è partito da uno Stato che ancora nel 2020 non sappiamo quanti uccide dei carcerati con le pene di morte e tutto quanto. Qui il problema è uno, che entro il 2030-2050 il mondo, se continua così, scoppierà. Hanno messo in giro sto virus. Ma chi l'ha messo in giro? Chi l'ha messo in giro? Il capitalismo, i cinesi, gli americani, quelli che comandano. Ma che vuol dire dei cinesi, gli americani? Luca, ma che ti ha dato di volta il cervello? Che te sei impazzito? Dimezzare la popolazione. Ma chi lo dice? Ma tu sei più complottista dei complottisti. Dicono tranquilli, ce la faremo. Ma che ce la faremo? Questo è un virus che gira per l'aria. Questo è un virus. Ma chi ha detto? Ma non è vero. Quando dicono che riapriranno i negozi ad aprile, ancora non avrà fatto nemmeno il 10%. Questo a settembre l'anno prossimo ha dimezzato la popolazione. Ma chi lo dice? Ma è uno spin-off del Centro Studi Gottardo, questo qui. Cos'è? È spin-off Centro Studi Gottardo questo. Come chi lo dice? Giuseppe, lo dice la storia. Ma non ho capito, Luca. Secondo te un grande complotto messo in atto da chi? Cioè, da chi è iniziato? Allora, io complotto non ci ho mai creduto. Te pensa che io credo alle scie chimiche come quei dementi dei 5 Stelle o alla Terra piatta? Credo solamente che, visto che ci sono delle leggi mondiali che entro il 2030-2050 dobbiamo, con l'inquinamento, per via dell'inquinamento, di tutte queste cose, rientrare in dei limiti, e non ce se la fa, perché ci allora, dice il protocollo di Kyoto. Miliardi, a causa del protocollo di Kyoto. Bravissimo, sì. Non ho capito. È Greta Thunberg che ha deciso. È un complotto di Greta Thunberg. Cioè, per diminuire il numero della gente sulla Terra. Bravissimo. Una volta facevano le guerre. E ora invece. Le guerre batteriologiche, vero? Queste malattie. Senti, ma ci saranno anche i capitalisti in mezzo? Ci saranno i grandi poteri plutocratico-massonici? Vogliamo scommettere che se piglierà il virus nel giro di un anno eccolo. Al presidente chi del partito è che farà comunista il vaccino cinese, diciamo chi ci guadagnerà con il vaccino. Luca, secondo io vorrei capire da Luca un giudizio sul signor Gottardo. Luca, che ne pensi del signor Gottardo? Io non sapevo nemmeno che faceva un programma radio, pensa un po'. Bene, continui così. Continui a non ascoltarmi nemmeno Brasile, la mattina. Per me Gottardo come il Brasile, messo lì per distronzate, giusto per avere uno certo, a cui dargli conto. Sento dell'invidia, vorrebbe dirle lei le stronzate probabilmente. Ci riesce no, anche no, meglio tra le altre cose. Non si preoccupa, che io non c'ho bisogno. Luca, ciao. Non nominare il nome del Brasile in vano. Beh, mi ha fatto comunque un complimento, guarda, come il Brasile è un complimento, sì, ragazzi. Sì, ragazzi, si è diffuso, in queste ore. No, leggevo una cosa oggi, una delle cose più divertenti che ho letto, così domani lo cerchiamo con la redazione. Dimmi. Ma questo è una Gramellini, lo scrive oggi sul Corriere, una delle cose più divertenti, bisogna vedere se è vero, ma credo di sì. Il sindaco di un paesino sardo ha precisato in un'ordinanza che si può portare il cane a passeggio solo a condizione che sia in vita. Vedi che tu leggi i cartacei, che è indietro, è roba di due giorni fa, in cui quello ha detto che era chiaramente uno scherzo, una roba goliardica per dire, cioè per prendere per il culo. Ah, ma l'ha fatta l'ordinanza? Certo, però. Sì, c'era, ma non era una cosa per... L'ha chiamato immediatamente, ha perso carta, allora, tempo nei giorni scorsi, per fare un'ordinanza, per prendere il giro. Cioè, una roba vecchia di due giorni fa, scritta 48 ore fa da Gramellini ormai, cioè è una roba incredibile. In queste ore si sta diffondendo un video ridicolo, assurdo, su un medicinale che sarebbe in vendita in Russia e che servirebbe per curare il coronavirus. Se ne era già parlato di questo medicinale, che in realtà è un anti-influenzale, un po' più potente, ma insomma non serve assolutamente un cazzo, è una fake news. C'è qualcuno che ha fatto un video dall'aeroporto di Mosca, un signore di cui ho anche il cellulare, almeno se corrisponde. Per forza, se noi siamo matti, noi voemo. Buongiorno signori, noi siamo qui a Mosca, come muove il biglietto. Ora vi porto a vedere come si compra la Bidol. farmaco anticoronavirus. Non è solo 46 anni che sta qui in commercio e ce l'hanno i russi. Ecco, appunto. Ci troviamo all'aeroporto di Mosca, andiamo in farmacia e andiamo a comprare questo famoso Abidol, contro tutti i coronavirus. Contro tutti i coronavirus. Abidol. Abidol, 20 mg. 20? Questo... Fermo, ecco qua. Guardate tutti quanti. È il famoso coso del coronavirus. Ok. Allora, secondo questi geni, praticamente grazie a questo medicinale in Russia ci sarebbero pochissimi casi, se non addirittura nessuno, di morti per coronavirus, mentre in Italia, come mai in Russia niente e in Italia siamo pieni di morti? Puttanata pazzesca, puttanata incredibile. Questi qua che diffondono questo video qua andrebbero presi, se sono in Italia, andrebbero presi e denunciati. Andrebbero presi, a meno che non sia una cosa ironica, a meno che non sia una, come dire, tutta una roba per ridere. Ma non sembra ironico. Il registro non sembra ironico per nulla. E denunciati, perché la gente ci casca e dice: come mai in Russia si guarisce grazie a un medicinale che viene comprato tranquillamente in farmacia, mentre in Italia... Meno male che ti sei svegliato pure tu. Svegliato che cosa? Scusa, ma che cazzo dici? No, perché c'è, dice, no, la libertà di parola, la libertà, ma restare tutti, no, ma come si fa? Ma se dico che ci vogliono i carri armati, ma una cosa sono le opinioni, una cosa sono le opinioni. Opinioni, una cosa è dire che un farmaco serve per guarire, che cazzo dei danni. Dire che questa è una banale influenza non, ma è no, un'opinione, ma che è cazzo una dici? Follia. Se uno dice una banale influenza tanto è una follia, dire... ma non è che devi essere denunciato, non diciamo cazzate, dai, ma denunciato su. No, ma redarguito sicuramente, ma redarguito sì. Da chi redarguito? Che il c'è tribunale della verità, dai. No, dai medici redarguito. Quello lì che dice che è una banale influenza, Mauro, guarda da Monza, i dati, vai. Da una settimana siamo qui a combattere con sta roba. Mauro, banale da Monza, influenza dai. Disse Mauro. Benny Hill. Non ho mai detto banale, isterico. Mauro, dimmi. Allora, credo che stavate dicendo prima, cacciatori, persone normali, posso dare la mia testimonianza, che purtroppo è vero. Io sono ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Sì, però Mauro, abbi pazienza, noi possiamo credere a tutto, no? Adesso magari io ti credo, però che uno all'ospedale San Gerardo di Monza, ricoverato, chiami qui... Okay. Ascolti la trasmissione, chiami in qui per dare non la sua testimonianza. Reparto. Potrebbe essere io in psichiatria. Francamente, fino a prova contraria, magari poi mi pentirò e ti chiederò scusa, ma io non ci credo. Lo dovrai fare, caro. No, fare, magari va bene, magari ti dà conforto sentire la zanzara, però che voglio dire, dimmi. Che voglio dirti è che, cioè, tu sei ricoverato a San Gerardo di Monza, in che reparto, scusami? Malattia infettiva a San Gerardo di Monza per il coronavirus. Questo è già più credibile. Sì, ossigeno, perché ho una saturazione al 92%, nonostante abbia la radiografia. No, ma con 92 perché... non ti danno l'ossigeno comunque? Sì, ce l'ho, perché io sono trapiantato di rene, sono immunodepresso, quindi ho particolare. Dunque... Volevo dire proprio questo, quello è che sentire persone che ancora definiscono questa situazione una situazione di normalità e la vogliono ancora prendere sotto gamba, dovrebbero fare secondo me un giro in questo pronto soccorso della Lombardia per rendersi conto di cosa sta veramente succedendo, perché è un campo da battaglia, ci sono persone che arrivano ogni giorno, e qui in ospedale ve lo dico, non sanno più dove mettere i pazienti, perché arrivano anche da ospedali dove ormai non c'è nemmeno più posto. Senti Mauro, mi mandi una... Ma ti ripeto, io credo naturalmente a quello che dici, perché non potrebbe essere altrimenti. Anzi, sono contento che magari ascolti questa trasmissione e ti diverti un po'. E trova conforto, certo. Ti diverti un po'. Soprattutto sentire persone come Gottardo, non puoi altro che fare divertirti, perché uno che dice certe stronzate, a meno, se metti, io mi metto a ridere, ma se fosse un operatore sanitario che sento una persona che giudica, certo, così questo problema, questo io lui penso. No, che ma io non scusami Mauro, io non ho mai giudicato, e anzi considero delle persone, dei servitori dello Stato, quelli che sono gli operatori sanitari. Sono degli angeli. Dopodiché, sono degli angeli. Benissimo, tutto perfetto, è il loro lavoro, e lo stanno facendo molto bene, ok? Come anche quelli che guidano gli autobus, come quelli che portano, esatto, il latte nei supermercati, come quelli che tutti negli quelli ospedali che vanno, rischiano un po' di più. O quei poveri stronzi che anche vanno, tu lo che fai vanno bene, dici stronzate e lo fai bene, dici bene anche, e io tu spero di dare un sorriso anche a Mauro. Mauro, scusami un attimo, Mauro, che anche Gottardo sta facendo il suo lavoro, è un prezzolato provocatore. Prezzolato no, provocatore forse sempre troppo poco, sempre troppo poco. Certo, sempre troppo, e ribadisco. Vabbè, ma Mauro, scusa, che tempi ti hanno dato di uscita dall'ospedale? Non si sa, perché questo malattia purtroppo varia da persona a persona, con sintomi diversi da persona a persona e con evoluzioni. Da quanto sei ricoverato? Da quanto sei ricoverato? Sono ricoverato da domenica, ma ho la febbre dall'8 di marzo, ma vi dico che se non fossi venuto qui, io sono stato anche in un altro pronto soccorso, mi hanno discriminato, non faccio il nome o forse dovrei farlo, mi hanno discriminato, mi hanno lasciato in piedi, mi hanno assegnato un codice verde e sono dovuto andare via, sono andato via praticamente chiamando una persona ed ero positivo e questo pronto soccorso mi ha lasciato andare in giro così, cosa che non è successa. Com'è possibile? Al pronto soccorso ti hanno registrato come positivo e ti hanno fatto andare in giro? No, non mi hanno registrato come positivo, mi hanno dato un codice verde, questo è successo al pronto soccorso di Melzo, adesso dico l'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo, io mi sono presentato, quando sono arrivato lì la tipa alla reception ha detto: perché sei venuto qua? Io ti conosco, non dovevi venire in questo ospedale, ma a me mi ci ha portato il 112, vabbè, perché io vendo la febbre oltre 38. Vabbè Mauro, ti lascio il numero 393 71 71 701, mandaci delle foto, messaggi sulla tua situazione, ciao Mauro, mandameli però, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Allora, con noi, grande ritorno, il filosofo della zanzara, Diego Fusaro, buonasera, buonasera. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, un caro saluto, spero stiate bene, amici. Beh, non siamo messi male, chi più chi meno, tu sei a casa, mi sembra, no, filosofo? Sì, sì, sono bloccato, trincerato in casa con una buona scorta di letture auree che mi permetteranno di sopravvivere. Beh, lo Hegel, immagino, lo Hegel. È quello. Quello si legge, sempre. Si rilegge sempre, poi c'è Platone, sempre. Posso dirvi in breve quali sono i testi ospitati nella mia assolutamente libreria nella mia casa, c'è Spinoza, l'opera omnia di Spinoza che va sempre commentata a dovere, Hegel naturalmente, Platone, Aristotele, insomma i grandi classici. Spinoza, occhio soltanto a non confondere le monadi coi mona. Che quello sei mona è il filosofo Fusaro. Allora, le monadi sono invece. Scusi, filosofo, mi sembra di capire che lei abbia individuato nei nemici in questo momento dell'Italia in primis l'Unione Europea. Mi sembra di capire, no? Ecco qua, per il grande nemico dell'Italia. Mi pare, come dire, di essere in buona compagnia se financo il mite presidente Mattarella ha alzato il tono, lui che usualmente è così mite, dicendo abbiamo bisogno di solidarietà non e non di essere ostacolati. Ecco, con la Lagarde, con la BCE, con la Lagarde, non con l'Europa in quanto Europa. Inesistente. L'Europa è composta da quanti l'amministrano e credo che sia abbastanza evidente un deficit di intervento e di solidarietà. Tu, che mi sembra di capire che per te è più un ostacolo che altro, d'altra parte lo dici sempre, no, filosofo? Lo dico, se posso dirlo, te lo dico in due punti essenzialmente. In primis, l'Europa ci autorizza a utilizzare i nostri soldi e quindi ci fa di fatto perdere tempo prezioso. In secondo luogo, l'Unione Europea, con la sciagurata uscita comunicativa della Lagarde, ha affossato l'Italia. Io uso questa immagine: l'Unione Europea, anziché lanciare un salvagente all'Italia che sta affondando, le lancia un incudine, o se preferite le tiene la testa sott'acqua. La Cina ci ha dato di più, vuoi dire? Ecco, questa esaltazione tu fai, caro filosofo della zanzara, del regime cinese, che per te non è un regime evidentemente, no? Cioè, Allora, io parto da un presupposto che è sotto gli occhi di tutti, cioè il fatto che mentre l'Unione Europea ci tiene la testa sott'acqua, dicevo poc'anzi, gli Stati Uniti d'America inviano migliaia di soldati per le loro esercitazioni, gli unici paesi che ci stanno generosamente aiutando sono il Venezuela, Cuba e la Cina, Venezuela che ci aiuta. L'ha detto testualmente la Regione Lombardia, stanno inviando medici, perché è evidente, cari amici, il fatto che ormai l'alternativa secca è tra socialismo o barbarie. Il liberismo è bastato un virus a mostrare tutta la falsità di un sistema liberista che diceva che il privato era meglio del pubblico, che lo Stato era il male, che bisognava chiudere gli ospedali per spending review, che l'Unione Europea era la panacea e la Cina era il male assoluto. È bastato questo. Scusami, Davide, tu approvi questa praticamente questo amore che posso ha dirti, questa ammirazione che ha il filosofo nei confronti della Cina, ma per carità di Dio, io non approvo neanche le pause, cioè quando fa una pausa tra una parola e l'altra non approvo neppure quelle di, quello, di questo ragionamento sconfusionato dell'elogio, dell'elogio delle dittature, l'elogio delle dittature, allora, una follia assoluta. Scusi, allora, filosofo, però io le voglio chiedere un'altra cosa, però filosofo, perché lo chiami filosofo? Ammesso e non concesso che la Cina sia o Cuba siano dittature, il presupposto è che però ci hanno democrazie liberali, che cosa sono? Cosa sono? Partiamo dall'inizio. Cos'è? Cos'è la Cina? Che cos'è? Allora, in c'è il partito unico in Cina. Ma la vera in effetti, meno male, meno blu male. Con le stelline gialle. Ma quale dittatura di che dittatura? Cosa? Quale dittatura di che cosa? Che gli stati hanno volontariamente aderito all'Unione Europea? Quali? Guardi, quali? Quale dittatura? Guardi, gli stati hanno aderito loro all'Unione Europea? A essere sincero, non vi fu alcun referendum per l'ingresso. Però torniamo all'attualità, caro filosofo. Allora, io voglio capire se per lei, capire se per lei tutto è nato un po' da un complotto americano che ha messo nei guai la Cina. No, questo voglio capire, perché un po' lei ci crede a questa storia del complotto. Premesso che io sono, ripeto, non sono un medico e quindi non mi occupo del virus. Non sono un esperto di queste cose, ma socraticamente sollevo dei dubbi. Diceva Bertrand Russell che le persone intelligenti hanno dubbi, mentre i cretini vivono di granitiche certezze. E quali sono i suoi paradosso, dubbi? Il mio dubbio paradossale, se volete, è che questo virus abbia anzitutto colpito tutti gli stati che in un modo o nell'altro figuravano come non allineati, in primis la Cina, che era al vertice della sua potenza. Ma adesso sta colpendo tutti, però. Poi l'Iran ora anche sta gli Stati Uniti sta colpendo. Dunque crolla questa idea. E quindi crolla tutta, la stronzata crolla in due secondi. La stronzata crolla in due secondi. L'hai detto ed è già crollata, senza bisogno di confutarla. No, ma voglio dire, la stronzata che hai detto è già crollata. Cioè, mentre la dicevi, crollava. Quindi non c'è neanche bisogno di confutare. Una stronzata che è crollata. Non si agiti, perché la pazienza è la virtù. Ma no, ma no, io non mi agito, ma non c'è nessuna pazienza. Lei ha detto sollevo un dubbio, poi mentre lo diceva si rendeva talmente conto della stronzata che automaticamente è già accaduta, sì, perché è una stronzata già accaduta da solo. Vede, il fatto che lei si socraticamente la mando a fare in culo, ma socraticamente no, ma, guardi, ma non mi scompongo quando uno dice faccio un scusi. Purtroppo troppo pochi. Quando lei dice faccio un ragionamento e già cade da solo, perché l'ha detto lei stesso, no, purtroppo guardi, sono già infettati da soli. No, e quindi guardi, possiamo dire che la stronzata gli è ricaduta addosso ricoprendola di merda, per usare una bella metafora, cioè la stronzata che lei aveva prodotto si è sciolta liquefatta. Sì, chiedo scusa. Il monologo di Amleto. Le dico molto semplicemente che allora è un dato di fatto che ci troviamo in quella che io chiamo la quarta guerra mondiale, successiva alla terza, che fu la guerra fredda. E perché? La terza, la terza è la guerra fredda. La quarta guerra mondiale è quella che la monarchia dell'hamburger nell'89 ha dichiarato a tutti gli stati non allineati al suo dominio. Ma che c'entra il coronavirus? Che evidentemente la Cina si trovava già da tempo a essere in una sorta di guerra fredda con gli Stati Uniti d'America, e quindi non è implausibile pensare, tra le varie ipotesi che si possono creare, sono tre le ipotesi, guardi, l'ipotesi dal pipistrello, B, quella che l'hanno prodotto i cinesi nel laboratorio, come ha sostenuto qualcuno, C, che sia stato portato dagli Stati Uniti, come ha sostenuto il governo ed cinese, è plausibile, anche il governo iraniano. Sono tre ipotesi che meritano di essere prese in esame. Chi non ha dubbi, ripeto, vive nella stoltezza. Avere dubbi è l'inizio di ogni sapienza, per cui invito tutti a dubitare, a non fidarsi di quella chiacchiera generalizzata che si pretende graniticamente vera. Il dubbio, diceva Socrate? Che il dubbio è il principio del filosofare. Il filosofo è colui che ama il sapere e non si accontenta delle certezze. Capito che citazione, Parenzo? Capito che, capito, ah, Parenzo? Nulla di che. Nulla di che. Socrate, e qual è quell'altra? In questo momento quell'altra... si sta tirando i calci nei coglioni. Quell'altra... Socrate, in questo momento si sta bastonando i coglioni. Perché se sentisse Fusano, quello sui amici e nemici. No, com'è Socrate, la citazione in latino? In questo modo, la citazione in latino. La citazione latina che ho citato in questi giorni. Ferentes, No. La mia citazione era un'altra. Amicus certus in re incerta cernitur, che vuol dire che l'amico vero lo si vede nei momenti difficili, e quindi l'Unione Europea si è rivelato un nemico certo in questo caso. Salve filosofo. Mentre invece Cuba è stata vicina. Beh, adesso salve filosofo, salve. Un caro saluto da Diego Fusaro. La zanzara. Parenzo, ora io non sono d'accordo per nulla che dice Gottardo in questi giorni, quindi Parenzo fa anche bene attaccarlo, ma almeno fare cosa a modino. Cosa dici, sembra Mr. Bean, perché qualsiasi cosa che dice poi si realizza il contrario. Ma l'ha mai visto una puntata di Mr. Bean? È tutta un'altra comicità, manco parla Mr. Bean, si limita a bofonchiare parole in inglese tipo così. Non parla Mr. Bean. Cosa dici, Parenzo? Cosa c'entra dire in questo modo? È una comicità slapstick, è un'altra roba Mr. Bean. Se devi dire le cose, dille per bene, porca miseria. Parenzo, tu dovresti difendere a spada tratta il ciclista Brazzo, perché fa esattamente ciò che faceva Carola Rackete per far entrare i migranti contro le regole imposte dal governo giallo-verde. E invece lei era un'eroina e Brazzo è un coglione, un pazzo. Ah, a proposito, ha pure denunciato gli agenti per sequestro che lo hanno fermato. Avanti così, eroe. Pronto? Intanto ragazzi, qualcuno di voi sicuramente lo sa, Chiambretti ricoverato per coronavirus e quarantena anche per Sgarbi, per Malgioglio e per Michel Hunziker. Tra l'altro... Sgarbi dunque in teoria non può uscire, sì, perché credo che abbiano fatto l'ultima puntata di Chiambretti quando era in onda. Forse c'era anche Feltri in quella puntata, mi dicono, però non lo so. No, Feltri c'è sempre. Feltri c'è sempre, dunque in teoria anche Feltri, però è collegato. Ma forse Feltri era in collegamento. Sì. Feltri non si muove. Mi dicono che è in studio, però insomma, vediamo se è in quarantena pure lui o no. Dunque Sgarbi anche volesse uscire non può uscire perché è in quarantena in questo momento. Chiamiamolo subito, scusami, e adesso lo chiamo. Intanto come sta, comunicato stampa di pochi minuti fa del governatore del mondo. Sentite che autorità, ragazzi, sentite che enorme autorità. Facendo seguito alla corrispondenza dei giorni scorsi, ho scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, al Ministro dell'Interno, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al Prefetto di Napoli, segnalando che ancora oggi si registrano assembramenti dei cittadini e trasgressioni alle prescrizioni imposte in sede nazionale e regionale. Diventa quindi ancora più urgente la necessità di avere sul territorio unità delle forze armate, ragione, e supporto delle forze dell'ordine, il cui va il riconoscimento del grande sforzo organizzativo e di efficienza che sta assicurando su ampia area del territorio per il rispetto delle misure sanitarie adottate, la necessità dell'invio di pattuglie delle forze armate, come sollecitato dagli stessi sindaci, questo è un po' capanna, diventa altresì indispensabile nei territori dove sono state adottate misure di restrizione più ampie. Tra l'altro De Luca ha chiuso praticamente 5 comuni. In uno di questi comuni, la cosa incredibile, c'era un gruppo di persone che aveva partecipato a una specie di riunione dei neocatecumenali. Dei neocatecumenali! Qualche giorno fa, dei neocatecumenali, che praticamente si erano riuniti e pare che abbiano bevuto dallo stesso calice. Dallo stesso fottutissimo calice, capito? Questo è il punto. Pare che abbiano bevuto, perché è usanza, dallo stesso calice. Dunque questi neocatecumenali, fottendosene delle regole, hanno fatto una specie di riunione, non so dove, in un albergo credo, e poi addirittura in una chiesa. Pare che se ne siano sbattuti di qualsiasi prescrizione. Pare, perché poi non si sa. Ma lo ha detto lo stesso De Luca, parlando di un santone, parlando di un predicatore. I neocatecumenali, ragazzi. Io vado ai matti. Vito da Catania. Buonasera a tutti. Dimmi. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. No, non sento. Steve da Monza. Steve da Monza. Steve, dimmi Steve, dimmi. Dimmi. Oh, mi senti? Sì. Ok, ascolta, ti volevo chiedere una cosa molto semplice. Innanzitutto sono incazzato nero, perché io ultimamente il batacchio non lo sto riuscendo ad usare come si dovrebbe in questo periodo. Sì, ma non me ne frega niente del tuo batacchio, Steve, non me ne può fregare di meno. Vittoria, non me ne frega un cazzo, Vittoria da Napoli. Vittoria. Allora, buonasera a tutti. Allora, io chiamo da Napoli, sono di Ercolano precisamente, e sono incazzata nera. Allora, io faccio un appello al signor Conte che deve mettere questo cazzo di esercito per strada. Allora, vi racconto cosa è successo stamattina. Cioè, dimmi. Più che altro succede da tre giorni. Sotto casa mia, in uno spiazzale sotto casa mia, c'è un raduno di 6 o 7 ragazzi che puntualmente montano questo cazzo di tavolo da ping pong, si mettono a giocare, contornati da una corte di anziani che non fanno un cazzo, guardano solamente. Abbiamo chiamato carabinieri, polizia, nessuno è venuto, nessuno. Ora noi li abbiamo rimproverati dal balcone, ma più di tanto non si può fare perché non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Cioè, non ho capito, la gente gioca a ping pong tranquillamente? Esatto, sì, per strada, tranquillamente. Ma dove? Che zona? Che area? Ercolano, chiamiamo subito il governatore del mondo. Ercolano dove? Che strada? Il numero della strada? No, la strada, allora, senza il numero. La strada si chiama Via Belvedere. Vabbè, ma comunque ragazzi, il problema è questo, non c'è niente da fare, è così. Abbiamo chiamato carabinieri, polizia, nessuno viene. Il clou stamattina arriva la camionetta della protezione civile urlando sempre i soliti appelli, restate a casa, arriva in questo spiazzale, ci sono i soliti vecchi seduti sulla panchina, li guarda, fa retromarcia e va via. Cioè, è proprio fantastico. Il punto è questo, ha ragione De Luca, in piccolo ho ragione anche io, le regole ci sono, a parte che non sono chiare per niente, perché uno può uscire, certo non può giocare a ping pong, uno può uscire e se ne può sbattere assolutamente di quello che dicono, cioè per necessità, perché può dire tranquillamente sto andando a fare la spesa, e ci puoi andare pure 4 volte, in Cina non potevi andare 4 volte, ci potevi andare una volta, però controllato e monitorato in Cina. Sì, ma a dentro casa punto, ping pong in queste dai. Situazioni meglio un regime, almeno tuteliamo la salute pubblica. Perché così non si va avanti. Ma ragazzi, ma non è questione di regime. Abbiamo bisogno di qualcuno. Sì, ma questo è in tutte le società aperte, libere, così. Se tu in alcuni momenti non applichi, come dire, delle regole durissime, non esci. Se tu permetti alle persone di fare il cazzo che vogliono, non c'è niente da fare. Non bastano le regole, c'è bisogno di qualcuno che controlli. La libertà è bella, ragazzi, non ci nascondiamo. La libertà, quella che avevamo fino a qualche giorno fa, è straordinaria. Oggi non possiamo fare più un cazzo, non possiamo avere vita sociale. Non possiamo andare nei ristoranti, non possiamo incontrare le persone normalmente, non le possiamo toccare, non le possiamo abbracciare, non ci possiamo parlare da vicino, per cui è tutto già limitato. La libertà è straordinaria, ma in casi eccezionali la libertà va a farsi fottere. Quelli che predicano di privacy ogni giorno devono sapere che sono controllati pure nel buco del culo. Di cosa parlano? La privacy già è fottuta con i telefonini e con tutti i marchi ingegni elettronici. Allora ti piacerà sapere, perché probabilmente l'avrai letto proprio ieri, ma io l'ho visto anche nei telegiornali israeliani oggi, quello che ha messo in campo Israele per combattere il coronavirus. Ma certo, ma l'Israele, ma che cazzo gliene piace? Cioè, l'uso? Ma tu l'avrai letto forse, ma certo, tutti forse letto, lo hanno visto. Certo. Cioè addirittura l'uso del telefonino, se tu sei, loro ti rintacciano attraverso il telefonino e vedono attraverso il telefonino se tu hai avuto il coronavirus e le persone con cui sei stato in contatto. Il problema però se lo sta ponendo anche Israele, perché tutti questi dati che sono nelle mani dei servizi segreti interni, per una parte dell'opinione pubblica israeliana questo può diventare un problema. Prendiamo il caso di Cruciani. Cruciani risulta, però per il tuo bene. Cruciani risulta positivo al coronavirus, il dato viene subito inviato a un cervellone centrale. Se per caso Cruciani esce sul cellulare di Cruciani, questa è l'innovazione, arriva un messaggino dello Stato che gli dice: brutto imbecille, devi ritornare a casa. Ma è normale che sia così, ma di che stiamo parlando? Oggi abbiamo dovuto fare un altro decreto in cui si specifica una cosa ovvia, che quelli che escono col coronavirus, ho raccontato quello che avviene in un paese democratico come Israele. È tutto qua, insomma. Grande democrazia. Beh, sì. Hanno sospeso il processo a Netanyahu. Allora, fermi sbaglio, tutti. No? Paolo Brosio con noi, eccoci qua, Paolo. Ciao Giuseppe. Ciao. Avanti tutta, Paolo, avanti tutta. Dove sei ricoverato? No, dove sei ricoverato? Dove sei, dove sei rinchiuso? Scusa, per te, perché io sto ancora bene, poi vediamo. No, ricoverato nel senso dove sei rinchiuso? Sono in Versilia, a casa, nella mia residenza, dove vivo con mia madre. Tua madre come sta? Che lei ha una certa età, bene, spero. Allora, mia mamma, poverina, sai, è un momento difficile perché lei il 7 di aprile compie 99 anni. Porco Giuda, porco, 99 anni. Sì. Oggi abbiamo discusso perché ho detto: mamma, metti la mascherina, mamma, prendi le pasticche per rinforzare il sistema immunitario, prendi la vitamina D. Lei dice: io ho fatto la seconda guerra mondiale, ho sentito gli echi della prima guerra mondiale, ho vissuto l'alluvione di Firenze, ne ho passati di colori. Ma sai che cazzo me ne frega di... sì, esatto. Che me ne frega del coronavirus? Ma scusa un attimo, non è che ti dice: guarda, se devo morire, ma va bene pure col coronavirus o no? Non te lo dice? Sai, mia mamma è una donna di grande fede, perché tu sai che una volta e la gente pregava per davvero, quindi lei si affida alla Madonna, prende tutte le precauzioni. Però la Madonna non ti protegge, diciamo la verità, Paolo. Io sono molto preoccupato per la mamma, perché basta o niente, e spesso devo uscire per fare delle commissioni, pure per andare a lavorare. Ma capito, fagliele tu, ma fagliele tu le commissioni. Che deve lavorare? Scusa, ancora lavorare? Che deve lavorare? No, io devo uscire. Tu. Nel momento in cui esco, anche se vado nei posti dove è consentito di andare con l'autocertificazione per lavoro, per cosa, praticamente quando rientro in casa ho una responsabilità enorme. Ah beh, certo, perché è chiaro, perché in questo momento tu non dovresti essere con lei in realtà. Cioè... Ma io abito al piano di sotto, però siccome la mamma l'anno scorso si fratturò il femore e quindi ed è tornata a camminare, perché è una roba... Vabbè, non è autonoma, però... non è autonoma, e l'aiuti in alcune cose. Vabbè. Chiaramente voglio stare vicino, in un momento... ho capito, però sai, deve avere meno contatti possibili in questo momento. Lo so, ma guarda, è un problema vivendo con una persona anziana. Senti, voglio chiederti una cosa, ti ho visto molto incazzato per la questione delle chiese. Ora io dico però, Paolo, è vero che questo decreto permette di fare tante cose, tu dici se la gente può andare al tabaccaio, se la gente può andare in profumeria, se la gente può andare non so dove, perché non può andare a pregare? Ma ce n'è una peggio, perché se vai a comprare le sigarette con una malattia che attacca le vie respiratorie, allora vieta la vendita delle sigarette. Se vai, per dire, a prendere la schedina del Superenalotto, no? Io vado a prendere i giornali, c'è il tabaccaio, c'è il fianco, c'è l'edicola, prendi il Superenalotto. Ma come? Prendi il Superenalotto? Allora il Superenalotto è fondamentale, è essenziale. Allora va bene, allora quello va bene, comprare le sigarette che poi non fanno bene certo alla salute, e va bene, e però se vado ad andare a prendere un sacramento di Dio dove non c'è nessuno, perché vedi, il problema è che ci sono veramente... Ho capito, però uno può andare da solo a pregare, non è che non ci può andare, no, in teoria. Aspettami, non fare il discorso semplicistico. Ma uno può pregare anche a casa, però, scusami. Ma uno può pregare a casa, Paolino. Paolino. Aspetta, lui ti dice un'altra cosa. Prega a casa, prendi il rosario. Ma lo so, ma anche per gli ebrei è uguale, anche per i musulmani è uguale. Ho capito. Ma come certo. Per i musulmani è uguale? Sto parlando di Eucaristia. Ma lui sta parlando dei sacramenti, lui sta dicendo. Vogliamo toccare un argomento ancora più grave? Ok, tocchiamo. Bergamo, Cremona, una moria, una cosa che ti stringe il cuore, una tragedia, vedere questi infermieri che lavorano con la morte, perché un infermiere amico mio che abita a Cremona mi ha raccontato quello che è avvenuto in punta di morte di una signora che gli ha chiesto di parlare, una signora anziana, con la nipotina per l'ultima volta. Era già la sesta volta che prestava il telefonino, chiedeva il conforto. Cioè tu dici, ho capito, ma lì non è una... L'unzione dell'infermo, no, perché è un sacramento anche quello, come l'Eucaristia. Il prete ti dà l'unzione dell'infermo che ti concede l'indulgenza plenaria in stato di necessità. Cioè, ma quello è consentito, no? Quello è consentito, non è che non possono arrivare i preti quando uno muore. Ma c'è un cappellano su 100 in reanimazione. E questo qui già, poveraccio, io non so. Ho capito, però Paolo, in casi estremi uno prende misure estreme, e adesso la preghiera, no, i sacramenti, cioè la comunione, che cavolo ne so, l'estrema unzione, non mi sembra una cosa fondamentale. Se uno crepa, per carità, però, se uno crede, a momento. Andrà in paradiso lo stesso. Se cioè Dio ci dà la libertà, quindi Parenzo e Cruciani possono fare quello che vogliono. Anche il Brosio va lì e dice: Parenzo, ti devi fare l'unzione dell'inferno. Se tu non credi o sei un cattolico tiepido, non praticante. Ma no, ma io sono di un'altra azienda. Aspetta, aspetta, ma cosa importa a te? Ma io per dire. Ma io sono di un'altra azienda, ma figurati, fai quello che vuoi. Esco da casa mia, non faccio 100 metri, Vittorio Fuana, Porta dei Marmi, vado alla chiesa di Frati, che è aperta, deserta. Frati non c'è ombra, perché sono... Ho capito, ma non lo puoi fare in teoria, non è una cosa essenziale andare a messa e perché... Ma come puoi dire che per un cattolico praticante che non è essenziale... Ma perché ci sono tante... Certo che è essenziale, ma in questo periodo purtroppo non è una cosa primaria, questo è il punto fondamentale. Ma chi l'ha detto? Ma se tu non chiedi aiuto a Dio, cioè, allora, la scienza è fondamentale, è un dono di Dio, io metto la mascherina... Sì, d'accordo, però tu dici, in questo momento ci vengono a dire che il virus sta a 30 metri, che galleggia, ogni giorno c'è una distanza. Ti limitano una cosa che per te non è essenziale, per me altri 20 milioni di cattolici sì, e poi danno il permesso a emiliani lombardi di uscire dalla zona rossa e venire tutti in Versilia a aprire le seconde case. Infatti... E da quel momento i contagiati passano da 1 a 100. Ma quella è una puttanata, infatti. Ma quella, infatti, è una puttanata. Però non è che bisogna aggiungere puttanate ad altre puttanate. Quella è una, ne vuoi un'altra? Sono partiti quando hanno chiuso le scuole a Milano. Tu sai che era un mercoledì. Sì. Già il venerdì sono partiti da noi. E partivano i primi treni per il sud a lunga percorrenza. Però scusa, ma tu che alla fine che vorrei... sono andati in Puglia. Allora, quello va bene e la chiesa con tre gatti a pregare una cacciata. Scusami un attimo, tu vorresti le chiese, le messe... No, le... io non voglio le chiese. Tanto ascolta, sta tranquillo. Le chiese già normalmente non c'è un tubo. Adesso poi sono ancora più terrorizzati. Adesso hanno chiuso l'Urda. Hanno chiuso... Con le mascherine, con i guanti. Ma che mi succede a me lì? Ma che mi succede? Hanno chiuso l'Urda, ma comunque Brosio. Nessuno ci poi... mancava però solo Brosio, con tutto sto casino ci mancava Brosio. E a Parenzo, tutte e due, perché? Anche quelli che non credono. No, perché così? No. A me non mi salvano quelli. No, perché ma... Dio la pioggia la manda sui giusti e sugli ingiusti. Il sole lo manda su tutti, perché ci ama tutti. Ma secondo te ne possiamo uscire? Se qualcuno non prega e non riceve l'Eucaristia, come fa il Signore a proteggerci se si dona il libero arbitrio? Scusami, però tu la pensi come Fanzaga? Aspetta un attimo, aspetta, adesso ci colleghiamo meglio, Paolo, perché no, sento male, ci colleghiamo meglio perché sennò non si può continuare così. Già sono minuti che continuiamo con una linea telefonica assurda, forse il Covid ci ha distrutto pure la linea telefonica. Oggi fermiamoci un attimo, adesso torno, Paolo, aspetta. One Express, il pallet Express. One. Vi presento la Zanzara. Giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando. Allora, voglio capire da Paolo Brosio, che credo sia collegato meglio dalla Versilia, Paolo. Sì, ora vi sento meglio. Allora, benissimo, ottimo. Allora, voglio capire una cosa. Senza preghiera non ci si salva. Del libero arbitrio, cioè, senza preghiera non ci si salva, secondo te? Non ho capito, Paolo. Spiegami. No, la preghiera aiuta tantissimo. Noi poi abbiamo dei doni che ci ha dato, per esempio il medico, la scienza, la chimica, la biologia, la fisica, sono degli straordinari doni di Dio, ma Dio è al primo posto. Perché Don Fanzaga dice che praticamente ci salverà solo la Madonna, ma dai, non si può dire una cosa del genere. A Fatima nel 1917, il 13 maggio, quando c'è stata la prima apparizione ai tre pastorelli, la Madonna, una delle apparizioni più grandi della storia dell'umanità, la Madonna ha rivelato che la salvezza dell'umanità arriverà attraverso il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè Dio che vuole questo. Figurati se Maria, cioè, secondo te, senza la Madonna, la più umile, senza la più piccola, Madonna vuole andare davanti a suo figlio che è Dio. Cioè, non ma ho capito, senza la Madonna, senza... ci ha dato sua madre che è un essere umano. Ma ho capito, ma senza la Madonna non usciamo, senza la preghiera la Madonna... Ma non secondo... è vero che senza la Madonna, cioè Dio ci dà dei doni che noi dobbiamo usufruirne. Quindi la scienza in questo momento è fondamentale, ma Dio è Dio. Ho capito, però cioè, Don Fanzaga di Radio Maria, facciamo però, quello che ci dice il dottore, mancherebbe altro. Certo, Don Fanzaga, però, non dobbiamo spengere la lampada rossa, che è quella al segno dell'Eucaristia. Oggi, per esempio, alle 10:30 è uscita la notizia, già 15 giorni fa, chiuse le piscine di Lourdes, cioè la Madonna ci dona Lourdes, sì, per guarire da quelle malattie che la scienza medica non riesce a curare, e quindi fa questo dono. Chiuse le piscine, chiuse le piscine. Oggi hanno chiuso anche il santuario, la prima volta dopo 182 anni. Lì dentro, in 182 anni, ci si sono buttati dentro malati di tutti i tipi. Io ho sentito Vittorio Sgarbi, che ieri sera, c'eri anche tu, da Paolo, da Del Debbio, faceva proprio questa constatazione, il desiderio di partecipare alla vita spirituale come elemento fondamentale di sostegno morale e psicologico, e spirituale, però se la gente si riunisce alla vita di tutti i giorni come aiuto per gli infermieri, per trovare sostegno per quello un sacramento di Dio in un momento così schifoso, me lo vuoi dare? Ma se la gente va a Lourdes oggi o va a Medjugorje oggi, per esempio, sono pregati, hanno chiuso perché non ci andava nessuno. Ma tienlo aperto, ma che hai paura di tenere aperto perché, il tabernacolo male tu fa Dio? Non è che Dio fa male, tu pensi ascoltami Giuseppe, ma che c'è un complotto ateo? Che io sia deficiente che vado nel santuario che ci sono 50.000 persone quando c'è una malattia infettiva? Vado nella mia chiesa che non c'è un tubo, sono tutti terrorizzati. Ma se tu lasci aperto Medjugorje o lasci aperto Lourdes, adesso non so Medjugorje se l'hanno chiuso o no, è un casino, perché la gente, magari qualche matto ci va, si riuniscono insieme, si toccano. Ma chi si riunisce che stanno tutti a 100 metri l'uno dall'altro? Ma non ci va nessuno, gli alberghi sono tutti chiusi, tutti terrorizzati. Ma è una questione di principio. Perché vuoi toglierti la possibilità materiale di non stare davanti al tabernacolo di Dio? Perché la gente deve essere un sacerdote? Perché la gente... Ma scusa, quando il vigile del fuoco brucia la chiesa, brucia un palazzo, il vigile del fuoco cosa fa? Esce, va a spengere il fuoco. Il sacerdote, quando c'è il dolore, sta in mezzo al popolo, non deve stare rinchiuso tutti. Ma c'è la possibilità che... Ci ha dato un grande esempio, ha fatto 100 metri a piedi per andare a precare davanti a crocifisso. Ha fatto 100 metri da solo, perché non può andare vicino a qualcuno. Ma da solo, certo, ma non c'è nessuno per le strade. Ma ha dato un esempio stare vicino. Ma se tu dici senza che ci sia ma se gente. Tu dici ai preti di uscire, di fare messa, eccetera, eccetera. Ma non tutti i preti, ma un minimo indispensabile per dare un sacramento. Vabbè, ciao Paolino. Uno fa la comunione, sta a 4 metri, griderà un po' più forte i suoi peccati, in giro non c'è nessuno. Si confessa, e se muoio mi sono confessato, piglio l'Eucaristia, almeno me lo vado in paradiso. Se non siamo tutti peccatori, qui si brusa o si brusa sulla terra o si brusa in cielo. Ciao. Preferisco avere l'anima pulita e chiedere aiuto a Dio, perché quando l'anima è pulita anche il corpo sta meglio, molto meglio, perché la preghiera ha una potenza sovrannaturale. Credo fermamente che Cristo ha vinto la morte, che è risuscitato per donarci la vita. Quindi se noi ci neghiamo il suo corpo e il suo sangue, ci neghiamo la possibilità di un Ma la gente sta bisogna sopravvivere prima, Ciao Paolo, ciao. Tu sarai con me in paradiso oggi, e gloria a Dio. Ragazzi, io richiamerei il matto a questo punto, richiamerei il matto di ieri, però il matto di ieri va richiamato il ciclista di Trento, vai col ciclista di Trento, che ricordiamo ha denunciato tutte le forze dell'ordine. Brazzo esce perché non gliene frega un cazzo del decreto, perché lui non appartiene più praticamente alla Repubblica Italiana, ma è cittadino di diritto internazionale. Il brazzo violento del ciclismo. Pronto, chi parla? Brazzo, amico mio, sono Cruciani, come stai? Chi parla? Bene. Beh, stai cominciando a diventare il mio numero uno assoluto, eh? Volevo solo informarvi di questo, svelarlo ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in diretta su Radio 24. Cruciani è pagato in base ai mentecatti che riesce a portare in trasmissione. Per questo è molto ricco, perché ogni giorno riesce a trovare almeno 5-6 mentecatti da portare in trasmissione. Ciò spiega il motivo per cui stiamo intervistando questo povero idiota. Chiedo scusa se ho interrotto la conversazione. Prego, andate avanti. Scusi, dottor Bazzo, lasci perdere, perché Parenzo non fa testo, perché prende tutti come matti, prende tutti come matti. Sì, tutti, no, no tutti, lavoro, sto coglione. Allora io dico una cosa, Brazzo, io dico una scusa, scusi Brazzo, io dico una cosa, no, ma lei oggi è uscito ancora? Lei si rende conto che in questo momento ci sono delle pandemie più gravi, tipo epatite virale, tipo tubercolosi, che fanno milioni di morti. Aspetta. Quindi se dovessi stare a casa per le pandemie non uscirei più. Quindi è chiaro che questa è la pandemia più ridicola, la meno importante di quelle che ci sono già in corso. Quindi dovrei stare a casa comunque, se fosse per le altre gente pandemie, a Bergamo, sono molto più gravi. D'accordo, però c'è gente. Ma quindi è chiaro che esco lo stesso, perché sennò non dovrei più uscire. Sono pandemie in corso sempre, perché i virus girano. Quindi non è che si combattono le pandemie stando ho capito, casa, ma in Italia in questo momento si è malato facendo i tamponi. Però, però scusi, Brazzo, io dico una cosa: i figli l'hanno sfanculato. Pure i figli l'hanno sfanculato. Perché lo considerano matto, è evidente. Scusi, l'ha detto, Brazzo, però. L'ha detto ieri. Aspetta un attimo, scusi, Brazzo, però la questione Cruciani, è molto. Mi dica Cruciani. No, la cosa è molto semplice: ci sono un sacco di morti a Bergamo e dintorni, soprattutto, e in tutta Italia. Lei non può dire ci sono altre. Ci sono, guardi, dice che questi 1500 morti sono un sacco rispetto ai 10.000 dell'anno scorso. Allora, quelli dell'anno scorso cosa sono? Ma perché questi qua sono concentrati? Sono concentrati. Le vostre opinioni sono limitate alle diffusioni di dati solo di questa. Dunque, fosse per lei tutti potrebbero circolare tranquillamente. Fosse per lei ci sarebbe libertà di circolazione. Se no, fosse per me, per l'epidemiologia, per come hanno trattato le altre epidemie, e quindi tutti dovrebbero circolare, tutti dovrebbero visto di chiudere tutti in casa l'anno scorso, in questo momento è procurato allarme, perché se per l'anno scorso con i numeri cosa è procurato l'anno scorso non hanno chiuso tutti in casa, adesso stanno facendo un procurato allarme gravissimo, 658 codice penale, perché per 1500 morti e 10.000 contagiati fare una misura del genere, e l'anno scorso non ne hanno fatta neanche una, cioè sarebbero da denunciare davanti a un giudice, sarebbero questo è evidente. Conte ha fatto un procurato allarme. L'ha fatto denunci pure oltre ai poliziotti, punto. Oltre ai poliziotti, denunci pure Conte. Ma così. Io potrei, ma no, ma non mi. Ma sì, sarebbe giusto denunciarlo per procurato allarme, ma ne ha già poverino, è già messo lì in condizioni di amministrare un'Italia che va a pezzi. Devo anche rompergli i coglioni per queste cose, ma credo proprio di no. Poverino. Scusi, Brazzo, però precisiamo una cosa. Per non essere scalzato, se lui non faceva queste norme, ma lo buttavano giù, ha dovuto farle. Ci mancherebbe. Ma da chi? Costretto da chi? Io voglio capire una cosa, però. E poi... Lega, dai, porca miseria. Io non faccio dietrologia, è che sono evidenti, visto questo procurato allarme, dico ma che senso avrà? Mi sembra strano se non l'hanno fatto gli altri anni. Ma scusi, guardi le bare con i morti negli ospedali della provincia di Bergamo. Ma quella è un'altra cosa, l'influenza dell'anno scorso. Ma è un'altra cosa l'influenza dell'anno scorso. 10.000 bare. Vabbè, comunque. Vabbè, no, io per me sono il numero dei morti contro 10.000 bare contro 1.500. Vergognatevi a non esservi indignati l'anno scorso. Vergognatevi, perché i morti sono morti. I 10.000 l'anno scorso a voi non ne frega un Parenzo cazzo. Non dice niente. E Parenzo non dice pena, niente. Ma io non dico niente. A me io non riesco con un disturbato simile. Con un disturbato simile è impossibile interagire. Perché se da premesse Parenzo, sbagliate, è evidente Parenzo, che le conclusioni siano sbagliate. No? Però scusi, Brazzo, lei se io le dico, se io inizio una conversazione dicendo che gli elefanti volano, anche le conclusioni, cioè che cade merda dall'alto, sono conclusioni false, perché gli elefanti non volano. Allora come faccio? Cruciani, dimmi tu, gli elefanti volano, quindi piove merda dal cielo. Come faccio a entrare in una conversazione simile? Cosa vuoi che dica? Cosa dico? No, dimmi tu. Offendendo i morti dell'anno scorso, elefanti che volano, 10.000 morti. No, io dico, se lei la sua conversazione è oltremodo delirante, partendo da presupposti folli, Cruciani. Arriva a presupposti idioti. Allora, ma questo è evidente. Cruciani, senti come sei il riferimento di tutti i disadattati d'Italia. Cruciani, io parlo solo con Cruciani. I matti dicono sempre così. Io parlo solo con Cruciani. Allora, Brazzo, scusa un attimo. Però il fatto che i tuoi figli ti abbiano. Come lo definisci tu, Cruciani? Brazzo, dimmi tu. Uno che ha le sue idee. La cosa più incredibile è il fatto che tu sostieni sostanzialmente di non appartenere totalmente allo Stato italiano. Questo è il punto fondamentale. Questo allora è un altro discorso. Di esserti liberato. Beh, no, tu sostieni di non dover rispondere al decreto. Di non rispondere al decreto per questo. Perché tu adesso non appartieni a. Parlate di quest'altra cosa. Ogni cittadino può togliersi dal trust statale, ha questo diritto, ma non ha nessun diritto, e decidere e cambiare il trust. Ma non è vero, ma non è vero, lo dici tu. La legge, mi dispiace, ma non c'è la legge. L'articolo 1 è l'autodeterminazione, l'articolo 16 che ogni cittadino ha diritto alla sua personalità giuridica, è previsto dalla legge 881/87. Aiaia queste leggi, ma non c'è lo Stato libero di Brazzo, non esiste lo Stato libero di Brazzo. C'è lo Stato fondato su alcune. La Zanzara. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire: ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? 10.000 euro fra due settimane. Bene. Ma che c'è da mi si indice il cervello? Facciamo capire che vado mi si indice il cervello. Forse non capire che vado a stare a casa. Dovete stare a casa e che facci, ma non capire. Ad a stare a casa e che cazzo, ma non capire. Cos'è che dice? Dobbiamo stare a casa? Quando? I took her out, it was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. Questa epidemia ci insegna solo una cosa: De Luca, governatore d'Italia, con pieni poteri. Tutta la vita, però. Ma c'è anche quel coglionazzo di Parenzo, omosessuale represso e frustrato. Questo è Michele Caruso, andrebbe preso e preso a schiaffoni, andrebbe preso dalle orecchie e poi schiaffeggiato in pubblico. Michele Caruso, sì, che l'altro giorno non so, ma quello veramente schiaffeggia tanto, a quello gli piacciono gli schiaffi a Michele Caruso, se lo schiaffeggi un po' non gli dispiace, dunque credo che non sia nemmeno una punizione, sì, adeguata. Secondo me anche signor... un po', esatto, sì, proprio uno che gli piace farsi umiliare in pubblico, sì, penso di sì. Signor Michele Caruso, intanto ragazzi voglio introdurre un grande tema, quello della masturbazione. E devo fare l'elogio della masturbazione. Beh, come non faremo? È nuovo per te. No, non questo, è nuovo per noi. Non è nuovo per nuovo, noi. No. Però come si potrebbe fare senza masturbazione in questi giorni? Ci sono molte persone, non solo persone che vivono in coppia da sole, anche persone che vivono in coppia con la propria fidanzata, con la propria moglie, che stanno rivalutando il valore della masturbazione. Rocco Siffredi ci ha fatto una grande lezione su questo. Una grandissima lezione, un tutorial. La tematica di oggi del Corona Sutra, ricordiamocelo, è per questo che sono qua a parlarvi, sì. Riguarda la masturbazione, che interessa a tutti, me incluso. Tutti. Quale miglior periodo per dedicarsi alla masturbazione? Questo. Sia maschi che femmine mi scrivono: mi masturbo tanto. Alcune ragazze hanno esagerato, mi hanno detto: Rocco, mi sto massacrando la patata. Dico: no, non lo fare, piano, relax, non ce la faccio più. Ecco, evidentemente erano abituate a attività fisiche molto importanti, ok? Ci sono ragazzi che mi chiedono: Rocco, ma masturbarsi tanto fa bene o fa male? Ecco, il problema del fa bene e fa male, vi dico, attenzione a farlo troppo, perché rischiate una cistite cronica. Ci sono passato, ho 12 anni, ho record a scuola di seghe, 11 seghe in 5 ore, ragazzi. Ancora lo detengo, credo. Accadrà. Ragazzi, ma Gottardo, con gli fugante, ma ti prende fuoco 11 seghe in 5 ore? Lo raccontò anche qui in diretta: 11 seghe in 5 ore. Ma no, ma è pericolosissimo. Ma no, prende fuoco come il manuale delle giovani marmotte. Su questo tema farei parlare molto Gottardo, Ben Hill, perché no, è molto esperto. Su questo è esperto in materia. Avevo appena smesso a inizio anno e adesso mi tocca ricominciare. Perché sei in questa parte di trasmissione. Beh, viste le occhiaie, direi che sei più esperto tu di me. Quelle le ho sempre avute, caso, sono congenite. Quelle sono congenite, le ho sempre avute anche nei momenti di relax. Dall'infanzia, sì, dall'infanzia. No, ma anche da quando avevo 2-3 anni. E mi sono ritrovato in ospedale con una cistite cronica. Dopo una settimana di accertamenti, il medico mi ha detto all'orecchio, perché c'era mia mamma: smettetela di fare le seghe, Rock. Ecco, io tutto rosso ho detto: non lo faccio più, giuro. Perché cosa vi succede? Ve lo dico: quel piacere, più lo fate e più ne avete bisogno, poi quel prurito, perché si infiamma sicuramente tutta la parte di sotto, adesso non mi viene, non è la prostata, è l'uretra, la parte di sotto del membro, e poi sono cazzi. Allora, abbiamo qui un grande esperto, il nostro sessuologo di riferimento, che è anche andrologo, eccetera, il professor Izzo da Napoli. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei e a tutti voi. Come andiamo, Izzo? Lei sta lavorando, va in ufficio? Allo studio ci andiamo, sì, ma ovviamente l'afferenza è ridotta rispetto ai tempi normali. Cioè, siamo voglio capire, poi... lei però non fa un lavoro essenziale, dunque in teoria dovrebbe rimanere a casa. Beh, l'aspetto urologico è essenziale, anche la qualità della vita. Per cui lei va in studio ogni giorno? In pratica sì. Ma scusi, però la gente, come la richiesta? Ma la gente non può venire in studio a farsi visitare le parti intime in questo periodo? Oppure vengono lo stesso? Beh, ma parti intime significa anche prostata, significa anche urina, assimilazione, significa tanto, insomma. Per cui vengono lo stesso, professore? Beh, quando hanno necessità, sicuramente sì. Quanti clienti fa al giorno? Cioè, quanti pazienti ha al giorno? Beh, adesso sono pochi, adesso è una decina, insomma. Beh, insomma, una decina, eccetera. È vero che a Napoli, ragazzi, la realtà è questa, che a Napoli se ne sbattono i coglioni del decreto del governo. Escono a farsi visitare la prostata, a fare... Io spero che siano visite urgenti. Se uno c'ha male, che deve fare? Certo. No, ma non è vero che il napoletano non è... Diciamo, dove c'è più promiscuità sono meno attenti, sicuramente. No, ma non è questione di napoletani che escono da casa anche a fare una visita urologica o una visita dall'andrologo. Ma non è piacevole, però non è che vanno a vedere un film, si vanno a far mettere cioè voglio dire, la visita prostatica non è una roba divertente, credo. Non è che ogni volta prendo il dito. Appunto, perché Cruciani lo descrive come per dire vanno in giro vanno dal medico a farsi mettere il voglio dire, non è una roba così simpatica. Però lì. Scusa, volevo capire da Izzo una cosa. Allora, la questione della masturbazione, in questo periodo che uno è ristretto a casa, i dati ci dicono che si consumano più pornografia online, e dunque di conseguenza ci si masturba di più. Secondo lei è una cosa negativa? No, negativo no, dove c'è piacere non è mai negativo, insomma, anche perché la masturbazione di per sé non è un fatto negativo, non si diventa ciechi, non viene il tumore, tutte queste cose che ancora ogni tanto, specialmente in provincia, ci sono questi detti, no? Ma questa è una cazzata, però bisognerà stare attenti in questo periodo, no? A non farsi troppe pippe. Ma attenti, diciamo che la masturbazione quando è compulsiva... Sì. Quindi quando è sistematicamente ripetitiva non fa bene alla prostata, non fa bene all'equilibrio, insomma un compulsivo fa così. Ecco, ma un masturbatore compulsivo lei come lo definisce? Cioè, chi è il masturbatore compulsivo? Ma non ha età, per carità, non ha età. No, ma non l'età, che frequenza ha? Cioè la compulsività, ma quando è ripetuta la masturbazione sia 2-3 volte di seguito, insomma, a seguire. A seguire, certo. Cioè, ma è capitato qualcuno tra i suoi pazienti che è venuto da lei per dire: guardi, io non mi masturbo 3-4 volte di seguito, eccetera, non ce la faccio più. Ma certo, come no? Sì, certo. Non sono frequentissimi, ma sicuramente sì. Specialmente appunto con la facilità con cui si ha di accedere a film porno, immagini, fantasie. Ma lei oggi, alla gente che sta a casa da sola, no? La gente che sta a casa da sola, facciamo l'esempio di un single, che cosa consiglia di fare? Cioè, quante seghe al massimo si può fare al giorno? No, non c'è un consiglio da poter dare, non si può dire quante seghe. Una al mattino, una al pomeriggio, professore. Ma no, quando una voglia, per carità. Non è... Ho capito, ma mai c'è un ben motivato, uno è ben motivato. Ma c'è la ripetitività che non va bene. Cioè, quante se ne può fare uno al massimo al giorno? Diciamo, diamo un numero, diamo dei numeri. Cioè, ci sarà un limite, no? Cioè, più o meno. Ma no. C'è anche. Sono arrivati pazienti che addirittura ne avevano fatte 7-8 al giorno, insomma. 7-8 al giorno. Limite, ma sono casi limite, per carità. Sono casi limite. Sì, ma lei dice più di due al giorno non se ne può fare, però. Cioè, due al giorno mi sembra che sia già tanto, o no? Dipende. Non... Ma dottore, ragionando al contrario. Invece al contrario, quando è il periodo in cui è bene magari svuotare un attimo, no? Tutto l'accumulo? Diciamo, cioè, c'è un periodo limite? La solitudine sicuramente può più facilmente portare a un maneggiamento, a un allenamento di quel tipo, insomma. Dopo una settimana, dopo 10 giorni, perché questa quarantena sta continuando da un pezzo, è meglio a un certo punto rompere gli indugi o non è in assoluto dannoso? Ma non è, secondo me non è assolutamente dannoso, ripeto, non è dannoso se non si ha... Qual è l'eccesso? L'eccesso è un fatto soggettivo. Diciamo, l'eccesso è quando si ripetono nello stesso momento più volte la masturbazione. Ma non farsene mai, potrebbe essere in assoluto dannoso anche non farsene anche quello, per due settimane in seguito. Due sono poche, ma c'è chi per motivi religiosi, motivi personali, eccetera, non si masturba mai. E lì non va bene, perché poi si congestiona la prostata negli anni. Vedi. Ah, mamma. Diciamo, un normale esercizio dell'attività sessuale, qualsiasi essa sia, ma per lei in questo periodo la coppia, ci sono persone che vengono da lei o comunque che le parlano per un po' per capire, perché in questo periodo di lavori forzati all'interno della stessa abitazione ci potrebbero essere dei problemi o no? Diciamo che oggi come oggi c'è una grossa crisi dell'intimità nell'ambito della coppia, e quindi l'essere costretti in casa può portare la coppia a stare più vicini per provocare una reazione anche sessuale, che magari non avviene perché il rapporto ormai è trascurato, normalmente trascurato. Cioè, se non si coltiva in tempi normali, è difficile che si possa coltivare in tempi... Dunque le cose potrebbero peggiorare, le cose potrebbero peggiorare. O non andare come uno si aspetta che vadano. Senta, quali sono le lesioni che uno si può procurare? Cioè, i pazienti che sono venuti da lei magari per un eccesso di masturbazione, che cosa hanno, cioè, con quali lesioni si sono presentati di fronte a lei? Irritazioni del glande, chiaramente, no? Irritazioni del pene, del glande, del prepuzio, perché ovviamente la masturbazione è una... L'iter è sempre lo stesso. Questa è la masturbazione ortodossa, perché esistono anche le masturbazioni non ortodosse, in cui ci sono ancora qualche uomo, ci sono uomini che si introducono nell'uretra una penna, una matita. Ma com'è possibile? Ma scusi, ma chi lo fa questa cosa? Qualcuno si presenta? Sono retaggi post adolescenziali. Ma io veramente, io quando ero adolescente... So che c'è anche un nome scientifico per questo, si chiama masturbazione non ortodossa gottardiana, so che i medici hanno dato proprio questo nome a questo tipo di masturbazione. Sì, e quando ti pettini, sai Parenzo, succede quando ti pettini, essendo tu una testa di cazzo, ti capita pettinandoti. Gottardiana. Sì, certo. Ma gli scienziati, è la sindrome... Ma senta, dottore, mi scuso per Parenzo, ma perché uno si introduce qualcosa all'interno del pene? Perché quando era ragazzino si stimolava così. Questo è più frequente quando, per esempio, non c'è un buon scappellamento del prepuzio sul glande, no? Quando il pene non scappella bene da piccolo, quindi loro non forzano il prepuzio e quindi preferiscono che introducono qualche cosa nell'uretra per avere una stimolazione dall'interno. Se non potendo scappellare da ragazzini, e poi se lo portano avanti anche in età adulta, insomma. Vabbè, non è previsto, ovviamente, ma è documentato anche dei traumi uretrali per questo, perché il maschio gioca spesso col proprio pene, più duro sta, più lo manipola. Arrivederci, professore, arrivederci. No. Allora, dice Paolo Brosio che i medici dell'ospedale di Masta stanno lanciando un appello: chiamate l'esercito. Non so cosa significa, fatevelo spiegare, magari dopo. Magari dopo, no, domani ne parliamo. Fatevelo spiegare al telefono che cos'è. Piero da Lodi, vai Piero. Piero da Lodi, sono qui a letto, guarda. All'ospedale di Lodi? Sì, all'ospedale di Lodi. Da quanto tempo? Sono, te l'ho scritto dal 2 di marzo. Dal 2 di marzo? Beh, spero che tu stia meglio, perché 2 marzo è oggi 17, 15 giorni. Sembrerebbe che la cosa stia pian pianino mettendosi al meglio. Però guarda che dal 2 di marzo io la prima mascherina, la prima mascherina di protezione mia nei confronti anche del personale, mi è stata distribuita ieri. Addirittura? Ieri. Ma la situazione in generale com'è? Ma la situazione, sai, noi siamo, io sono in una camera a due, nel reparto che era una volta... No, ma la situazione com'è di sicurezza per i medici, di sicurezza per... Assolutamente assurda. Assolutamente assurda. Cioè protezioni quindi, poche? Protezioni sì, loro fanno quello che possono, questa gente qui si ingegna per proteggersi il più possibile, però sono delle protezioni cioè, a livello medievale, ecco, direi. Cioè non c'erano le mascherine giuste, niente? Se non sono un tecnico di mascherine e quella roba lì, ma da come vedo anche le signore che vengono a fare pulizie hanno pochi mezzi per proteggersi, ecco, diciamo questa roba qui, quindi la diffusione se avviene dal pronto soccorso internamente qui, se uno arriva al pronto soccorso che non c'ha il virus lo porta a casa sicuro quello lì. Senti, ma non ho capito quando tamponi, è che... Tamponi qui non ne fanno, Zero? Tamponi hai personale medico zero. Io voglio capire adesso, una cosa, Piero, quando è che ti hanno detto quando ti potrebbero dimettere, eccetera? No, guarda, soltanto stamattina mi hanno tolto la cannula dell'ossigeno per vedere se ce la faccio andarsene fuori senza questo tipo di aiuto. I dati vanno. Quanti anni hai tu? Meglio, quanti anni un attimo hai? Domani che cosa mi diranno. Quanti anni hai? 73. E ti ascolto giovane. Spesso, diciamo, non sempre, giovane, ma spesso. Giovane. Va bene, Piero, ti abbraccio, mi raccomando, avanti tutta. Avanti tu. Anche voi. Avanti ma, tutta. Ma pompate su quella roba lì di cosa? Della protezione del personale medico che lavora negli ospedali. Va bene. Molti lo fanno, guarda, ho ricevuto un sacco di messaggi a metterli in onda, lo faremo va anche bene, domani. Conta anche il mio. Ciao arrivato. Piero, ti abbraccio, saluto, ti abbraccio. Ciao. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura?